11 e mezza, perché si deve iniziare in ritardo per legge. Seconda giornata di una decorosa repressione, appunto una iniziativa di tre giorni organizzata da compagni e compagne, diciamo attivisti presenti a Bologna sul territorio da vario tempo. Non siamo evidentemente un collettivo, però rispetto ad alcuni avvenimenti dell'anno scorso ci siamo sentiti, abbiamo sentito la necessità di riflettere su come stanno agendo alcuni meccanismi repressivi, su come e sul perché stanno agendo. Abbiamo diviso questa iniziativa in tre giornate. Quella di ieri era dedicata alle cosiddette forme di vita, in cui abbiamo analizzato nel primo incontro la questione del DASPO urbano, molto in voga qui a Bologna, e in un secondo incontro la questione free party. Oggi ci dedichiamo alla questione decoro in due incontri. Il primo, quello che stiamo iniziando adesso, maggiormente centrati sul tema delle ordinanze. Il secondo, centrato su quella che abbiamo definito la socialità disciplinata, ossia che cosa si ottiene, cosa si vuole ottenere attraverso queste ordinanze. Domani alla palestra Gino Milli in via Gandusio affronteremo il modo con cui le forme di repressione che vengono attuate non solo dal ministro Poi, la legge Orlando Minniti, la stiamo leggendo come in continuità con quanto viene prima, con quanto c'è stato prima. Domani ci concentriamo sul tema delle migrazioni. Provo a riprendere un po' di spunti di questi giorni, ma credo anche di essere abbastanza breve. Solo per dire, ieri per come si è ragionato non solo in termini di cos'è la repressione, ma si è ragionato anche in termini di come reagire, per quanto insomma in maniera molto, molto spontanea, molto poco organizzata, alcune forme di resistenza sono state individuate. Le passeggiate indecorose sono state proposte ieri come forma di agire contro invece il sistema ronda, il sistema delle polizia che viene e dà il DASPO urbano a quelli che poi sono i poveri e gli emarginati della società. E la serata poi si è conclusa con un discorso sui free party, in cui le diverse sound presenti in serata ha detto no, facciamo una festa, che per quanto possa sembrare qualcosa di scanzonato, in un discorso inserito, in un discorso come quello di ieri, veniva fuori come riprendiamoci e ricostruiamo un modo per fare delle feste, che non sia tutto dedito al profitto, ma insomma abbia anche un senso politico. Era molto chiaro ieri, e mi auguro che dovrebbe esserlo anche oggi, che il modo con cui questa repressione sta agendo non è solo annichilire forme di vita, ma produrne di diverse, produrre forme di vita appunto disciplinata, decorosa, tendenzialmente che porti profitto ovviamente nelle tasche di coloro che già i soldi ce li hanno. Il primo incontro che abbiamo oggi appunto si concentra sul tema delle ordinanze. Abbiamo tra l'altro anche geograficamente una cosa interessante, perché ragioneremo soprattutto su due città, una è Bologna e l'altra è Torino, dove in termini di sperimentazioni e di processi che sono in atto le cose sono molto interessanti e danno molto a cui pensare. Rispetto alle ordinanze, anche nel testo che abbiamo pubblicato precedentemente in preparazione all'incontro, abbiamo individuato due punti in particolare. Il primo è che, e appunto se ne parlerà nel corso di questi interventi, il primo è che queste ordinanze hanno tra le loro tante funzioni quella di individuare un nemico. Non sono mai neutre, ovviamente, le ordinanze vanno a colpire determinate forme di vita, individuano un nemico. In alcuni casi, forse all'inizio, sono state dedicate principalmente alla prostituzione, ma poi si è evoluta ed è insomma, si è complicato il quadro. In questo momento, per esempio, è chiaro che l'amico è da trovare all'interno della classe povera, quindi indecorosa. La seconda cosa si connette a quanto ho appena detto, le ordinanze producono un tipo di città, che è la città la città neoliberale o iperliberale, ossia la città in cui ogni azione, ogni movimento è teso allo sfruttamento, al creare profitto. Attenzione, quando diciamo creare profitto non stiamo parlando del singolo baretto un po' più chic che fa soldi, chiaro che quello è un nodo dell'ingranaggio, ma si sta parlando di cose molto più grandi che vanno dall'edilizia alla finanza a chi effettivamente ha il potere di gestire la città. Ne parliamo con Enrico Gargiulo, sociologo dell'Università di Venezia, che ha riflettuto sulle ordinanze e sul significato anche politico che queste hanno. Ne parliamo con Giuseppe Scandurra dell'Università di Ferrara, di cui abbiamo, per la preparazione di questa regione, abbiamo anche letto alcuni pezzi del suo libro Bologna al Bivio. Ne parliamo con Michele del Centro Sociale Scatasuna di Torino, dove ovviamente quest'estate sono successi fatti significativi, abbastanza significativi per quello che riguarda il tema che stiamo trattando. Io ammetto che vi ho elencato come vi ho letto, scegliete voi chi vuole partire per primo, se per prossimità allo speaker o per altro, non so. Io, se provo senza microfono, mi sentite giù o serve per la registrazione? Ok, no, scusate. Allora, grazie innanzitutto dell'invito, mi fa molto piacere essere qui, spero di contribuire in maniera significativa. Il ragionamento che provo a fare è proprio sullo strumento ordinanza più che sull'ambito specifico della movida, nel senso che chiaramente tocco anche questo, ma vorrei focalizzarmi proprio su che cosa sono le ordinanze, a che servono, perché vanno così di moda. Proprio la movida delle ordinanze, insomma, negli ultimi 10 anni è diventato uno strumento usatissimo e abusatissimo, e perché piacciono tanto e perché sono utili, a cosa dovrebbero servire, a cosa servono in realtà. Vorrei provare a fare un ragionamento di questo tipo. Quindi in parte riprendo argomenti già trattati ieri, spero di non essere troppo noioso, nel caso fatemi dei segnali di noia, cerco di cambiare registro, e riprendo cose già note, ma appunto l'obiettivo è quello di creare un ambito di ragionamento su cui si inseriscono le riflessioni dettagliate sui casi di Torino e di Bologna. Allora, le ordinanze sono uno strumento che esiste nell'ordinamento italiano da 100 anni circa, hanno cambiato forma più volte e la forma che rivestono oggi è strettamente legata al cambiamento del testo unico degli enti locali, gli anni 90 e 2000, quindi al ruolo e alla forma che assumono le amministrazioni comunali tra gli anni 90 e il 1900. E sono strumenti appunto che sono attribuiti ai sindaci, alle amministrazioni comunali, ma in particolare al sindaco, perché sono provvedimenti monocratici, emana il sindaco senza formalmente doversi rivolgere alla giunta o al consiglio comunale, per governare, nel senso per influire immediatamente e velocemente su fenomeni che non possono essere gestiti in quel momento dalla regolamentazione ordinaria. Quindi la logica è emergenziale d'urgenza, perché l'idea è la legge ordinaria, la norma ordinaria non basta per gestire questo fenomeno che si presenta in maniera improvvisa, e quindi deroghiamo nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, bla bla bla, e in maniera temporanea. Quindi questa cosa qui è il ruolo formale, di fatto sono utilizzate per tutt'altro, cioè l'idea è che sono utilizzate per normare in maniera più o meno stabile processi che si ritengono rilevanti dal punto di vista degli amministratori che ne fanno uso. Quindi la perversione dello strumento è utilizzare una roba emergenziale, temporanea, circoscritta nello spazio e nel tempo per governare in maniera strutturale qualcosa. Quindi la partita politica è centrale. Il sindaco diventa un soggetto che vuole dettare legge su materie di rilevanza fondamentale attraverso uno strumento tecnico. Qui c'è l'altra questione. Dal punto di vista delle fonti del diritto amministrativo, le ordinanze stanno a un livello terra-terra, cioè sotto ci sono veramente quasi le prassi burocratiche e poco più. Se scendiamo sotto l'ordinanza credo troviamo molto poco. Quindi uno strumento ultratecnico, amministrativo, non legale in senso stretto, che in realtà ha una valenza politica molto forte, perché di fatto viene utilizzato per incidere profondamente sulla vita della comunità locale. Quindi in questo senso, se ci mettiamo dalla prospettiva dello Stato di diritto, che ruolo hanno questi strumenti, che significato hanno e che conseguenze hanno? In che senso bisogna obbedire alle ordinanze? In che senso le ordinanze hanno valore all'interno del sistema giuridico? Altra questione rilevante è il ruolo degli attori. L'ordinanza in uno può essere emanata dal sindaco o come capo della comunità locale, diciamo così, come rappresentante, come soggetto politico o come ufficiale di governo. Quindi come rappresentante del governo che non dovrebbe dire nulla di nuovo, ma semplicemente applicare la normativa. E qui c'è il rapporto gerarchico col prefetto che è molto forte, quindi un'altra questione interessante a livello di governo. In tutte queste partite qua, dove stanno le prefetture che in teoria sono molto spesso scavalcate dai sindaci? Quindi il discorso ordinanze dice qualcosa di interessante anche su che cos'è lo Stato e cosa sono i poteri statali. No? Non c'è ovviamente un unico blocco, c'è un insieme di attori che si muovono in maniera in alcuni casi indipendente, in alcuni casi anche teoricamente conflittuale, raramente apertamente conflittuale, anche se dei conflitti tra prefetture e comuni ci sono, e quindi questo è un aspetto piuttosto interessante. E, storicamente vanno collocate chiaramente in un quadro di trasformazioni politiche piuttosto interessante e vanno associate alla evoluzione, direi l'involuzione del centro-sinistra nella storia italiana. Perché la partita delle ordinanze tra anni 90 e anni 2000 si accompagna alla gestione delle politiche migratorie del centro-sinistra e soprattutto alla questione della sicurezza urbana, che come ben si sa vivendo, per chi vive a Bologna e Emilia Romagna, è una partita fortemente legata al Partito Democratico di Sinistra negli anni 90, il programma Città Sicura e tutto il discorso che ne è venuto fuori. Ovviamente anche le trasformazioni urbane, quindi le traiettorie sono cambiamento della cultura politica del centrosinistra che ha insistito molto sulla questione della sicurezza urbana e ha cominciato a favorire l'impiego di strumenti di questo genere, alle trasformazioni urbane l'esigenza di gestire alcuni fenomeni legati alla trasformazione della città con evidentemente strumenti molto veloci di pronto impiego, celeri in questo senso, okay? Evocando altri ambiti della celerità dello Stato. Sì, è abbastanza inquietanti, alle trasformazioni appunto come già detto del ruolo del sindaco e dei cambiamenti dei livelli di governo. Quindi in questo senso io provo a individuare quattro percorsi che ovviamente non richiamerò tutti qua perché non c'è tempo. Uno è quello della politica di sicurezza urbana, quindi centrosinistra che realizza politiche di sicurezza urbana e insiste molto su questo aspetto e quindi ha bisogno, queste politiche hanno bisogno di strumenti adatti al contesto. Uno è quello della penalizzazione degli strumenti amministrativi, discorso che è emerso ieri, l'utilizzo sempre più preponderante di strumenti di prevenzione amministrativa con una funzione direttamente o indirettamente penale, cioè li si usa come se fossero motivati dalla violazione di norme e servono per punire o per innescare un circuito che porta a livello penale. Anche un'ordinanza prefettizia sulla non accessibilità di un territorio, Val di Susa per esempio, può trasformarsi in un passaggio a livello penale, se uno viola il provvedimento, questo meccanismo può essere innescato facilmente, non sempre lo è, ma può esserlo, quindi il circuito è chiaramente evidente. L'idea di gestire in maniera emergenziale fenomeni che sono ordinari, anche qui sulla Movida, cioè, quello è un fenomeno strutturale, nel senso che se un quartiere cambia non è che c'è l'emergenza, dovrebbe essere un qualcosa che se l'ente pubblico vuole regolare, dovrebbe regolare in maniera strutturale, con strumenti come i regolamenti, quindi perché fare l'ordinanza? E l'ultimo pezzo interessante è quello della riduzione del welfare e delle politiche sociali, perché sul discorso sicurezza urbana questi due argomenti vanno di pari passo. Quindi le ordinanze sono uno strumento interessante di politica pubblica perché vengono rappresentate e utilizzate come modo per gestire alcuni aspetti della vita pubblica a livello locale. Un primo aspetto di ambiguità, tra i tanti che ce ne sono. Nello stesso periodo in cui il centro-sinistra si cominciava a interessare alla sicurezza urbana, quindi subiva o promuoveva questi cambiamenti, diventava un altro dei mantra che diventavano parte della vita pubblica e delle politiche pubbliche era quello della partecipazione. Se pensiamo agli anni, alla stagione delle riforme degli anni 90 in materia di politiche sociali, ad esempio, di gestione di grandi eventi, di politiche ambientali, non si poteva fare una politica senza metterci dentro la parola partecipazione. Quindi, se non si dice che la politica è partecipata, non è democratica. L'equazione partecipazione è quella democrazia. Poi non importa cosa c'è dentro la partecipazione, l'importante è dirlo, mettere su dei tavoli. Se penso io, mi sono occupato più di politica sociale, legge 328 del 2000, i piani di zona, i tavoli tematici, la partecipazione degli attori, la governance con gli stakeholders, tutti questi termini. Quindi partecipazione letteralmente vuol dire includere più soggetti, non soltanto pubblici ma anche privati, privato sociale o in alcuni casi addirittura privato non sociale. Domanda: cosa c'è di partecipato in una gestione delle politiche pubbliche attraverso le ordinanze, che sono lo strumento più monocratico e meno partecipativo che ci sia? Questa è una contraddizione stridente. È stridente tanto più perché trasversale rispetto agli attori politici. Centrosinistra la utilizzate, non è soltanto le ordinanze della Lega, che forse si è meno interessata al discorso partecipazione, ma proprio l'attore politico, PD, quello che l'ha preceduto, che insisteva sulla dimensione partecipativa, ha cominciato a fare un uso massiccio delle ordinanze. Per finire 5 Stelle, prendiamo Torino, no? Questa retorica della partecipazione dal basso, della democrazia costruita attraverso i cittadini, e poi prima occasione utile per regolare un processo che si dice di voler regolare in maniera seria, matura e partecipata, ordinanza. Quindi questo è un aspetto piuttosto interessante. Quindi ambiguità tra la retorica della partecipazione e l'uso di uno strumento che di partecipativo non ha nulla, anzi è la negazione di qualunque partecipazione democratica. L'altro mantra, l'integrazione. Sempre anni 90-2000, l'integrazione tra politiche. Anche qui penso alla 328, penso alle politiche di sicurezza urbana. Fare integrazione vuol dire mettere insieme vari pezzi tra loro collegati. Quindi non si può fare politica sociale senza pensare anche alle politiche sanitarie e al lavoro, ad esempio. Quindi integrazione sociosanitaria, integrazione sociolavorativa. Quindi anche qui la democrazia passava attraverso quest'idea che le politiche non sono compartimenti stagni, ma devono essere collegate. Sicurezza urbana. Nelle ambiguità delle politiche di sicurezza urbana del centro-sinistra c'era questa idea della sicurezza integrata, quindi non soltanto gli approcci situazionali, attaccare il problema, curare soltanto, per dire, il sintomo dei problemi securitari, ma andare alla radice occupandosi delle questioni socio-economiche che possono generare insicurezza. Quindi quelle teorie apparentemente democratiche di modelli di sicurezza urbana, approcci sociocomunitari, dovevano essere impiegati contestualmente ad altri strumenti. Quindi l'idea progressista era quella di mettere insieme un approccio incentrato anche sulla dimensione socio-economica, un approccio più incentrato sulla repressione o prevenzione dei fenomeni devianti in senso stretto. Questa parola integrazione quindi aveva questa valenza, anche quello non si poteva quasi fare politica senza parlare di integrazione, no? Tenere insieme le varie dimensioni senza schiacciare tutto quanto su una sola. Arriviamo a Minniti, che riprende questa parola integrazione con riferimento alla sicurezza urbana, ma chiaramente intende qualcosa d'altro. Cioè, sparisce anche qualunque. In realtà, qualche riferimento nel decreto, nella legge Minniti-Orlando, alla dimensione socio-economica delle disuguaglianze che può portare alle insicurezze c'è, ma è velocissimo. Dopodiché, integrazione vuol dire mettere insieme la repressione dei piccoli reati con la gestione dell'ordine pubblico e del decoro. Quindi integrare vuol dire semplicemente mettere insieme attività di polizia in senso stretto repressivo con attività di polizia preventive che hanno a che fare con il controllo del territorio, con la gestione dell'evanescente fenomeno che è l'ordine pubblico, su cui poi arriviamo, e del decoro. Quindi questo è un altro aspetto interessante. Si continua a utilizzare la parola, ma svuotandola di qualunque valenza, ormai anche lontanamente progressista, che è una cosa interessante, se vogliamo anche positiva. Uno dei meriti che ha Minniti, se vogliamo, è che ha messo sul piatto, ha scoperto le carte. Certe ambiguità le ha, se vogliamo, risolte, perché alcuni punti di vista sono piuttosto espliciti, c'è cioè poco da giocare, da svelare l'ambiguità. Quindi l'integrazione di cui parla è qualcosa di diverso. Veniamo al nemico. Effettivamente, allora, l'obiettivo qual è? Quello di gestire determinati processi individuando alcuni soggetti che sono considerati il nemico. gli agenti della pericolosità. Quindi in questo senso le ordinanze sono interessanti perché sono strumenti che producono confini. In alcuni casi producono separazioni spaziali, ma in molti altri casi producono separazioni di altro tipo, di status, attribuiscono etichette di meritevolezza, di desiderabilità, di accettabilità che introducono distinzioni formali o informali che agiscono non direttamente sugli spazi ma sulle categorie e a cui interno le persone vengono ricondotte. Quindi hanno effetti molto forti sul piano simbolico e sul piano materiale. Quindi in questo senso appunto sono strumenti di confinamento che agiscono in maniera diversificata. E ci dicono un'altra cosa interessante, la continuità è quella della logica della meritevolezza, che è una logica che è sempre stata dentro il welfare state. Quindi in questo senso rappresentano una forma accelerata e particolarmente violenta di manifestazione di quella logica che in forma più pacificata era già dentro il codice del welfare, che appunto anche nella sua apparente democraticità ha sempre ragionato, anche nelle forme più universalistiche, in maniera selettiva, distinguendo tra soggetti meritevoli e non meritevoli. Quindi anche in questo senso appunto le ordinanze, soprattutto quelle in alcune materie, esasperano questo discorso, hanno tra virgolette il merito di portare alla luce alcune contraddizioni, anche delle forme apparentemente più progressiste di gestione della cosa pubblica, quale il welfare Stato. La questione dell'ordine pubblico, quindi nel gestire alcuni soggetti invocano un certo modello di ordine, e questo è un aspetto secondo me particolarmente interessante e delicato. Cioè l'idea è, le ordinanze antimovido, le ordinanze che regolano la gestione degli spazi, dicono, noi non interferiamo nelle idee delle persone, non interferiamo nei valori di riferimento, non interferiamo nelle scelte di fondo, l'ordinanza serve soltanto a garantire la vivibilità degli spazi. Quindi esplicitamente c'è un rifiuto dell'idea che attraverso questi strumenti si incide sulle scelte personali, si incide sulla sfera delle espressioni o delle idee che le persone hanno, si incide soltanto su alcuni comportamenti che servono antisociali. Quindi in questo senso proteggono un certo tipo di ordine pubblico, e qui io ho questa fissazione del significato giuridico di ordine pubblico perché è una cosa interessante, una categoria assolutamente evanescente nell'ordinamento italiano ma conosce delle definizioni, e stando ai giuristi l'ordine pubblico ha due definizioni, una materiale e una ideale. Questa roba qui ad esempio è centrale, una distinzione centrale nel lavoro di polizia. Io sono occupato di studiare i manuali per la formazione della polizia e tutti quanti cominciano con questa distinzione tra ordine pubblico materiale e ordine pubblico ideale. L'ordine pubblico materiale coinciderebbe con la protezione delle proprietà, delle libertà minime delle persone, proprietà e circolazione in particolare. Quindi garantire l'ordine pubblico da una prospettiva materiale vuol dire impedire che materialmente si compiano degli atti che incidono sulla materialità della vita delle persone. Quindi proteggere la proprietà privata, proteggere la libertà di circolazione, quindi evitare che qualcuno impedisca alle persone di svolgere una vita normale, tipo circolando liberamente, spostandosi per andare a lavorare o usufruendo dei propri beni o degli spazi pubblici. L'altra concezione che, stando alla letteratura giuridica e ai manuali di polizia, sarebbe superata è quella ideale, che ha a che fare invece con le scelte valoriali ed etiche. L'ordine pubblico ideale sarebbe proprio di uno stato etico. L'ordine pubblico ideale è un ordine che coincide con una specifico assetto valoriale, quindi un ordine pubblico ideale non ammette tutti i tipi di valori e di idee, né ammette alcuni né condanna, non accetta degli altri. Quindi in questo senso uno Stato che difende un ordine pubblico di questo tipo fa una selezione a monte su quello che è accettabile, ammissibile, pensare, dire, non soltanto fare. Quindi l'ordine materiale avrebbe a che fare con la dimensione pratica dell'agire, del muoversi, non con le idee e i valori di riferimento. L'ordine pubblico ideale ha a che fare soprattutto con i punti di vista e prospettive. Stando alla lettera di chi utilizza questi strumenti, le ordinanze, come anche le azioni di altri corpi dello Stato, proteggono soltanto, garantiscono un ordine pubblico tipo materiale, non incidono sulla sfera valoriale. Mentre invece la sensazione è che facciano tutt'altro, che nell'individuare alcune categorie assolutamente indesiderabili agiscano in quel modo, quindi siano uno strumento di selezione, se vogliamo, etica. Cioè ammettono o rendono ammissibili alcune forme espressive e ne puniscano delle altre. Ammettono o rendono ammissibili alcune categorie di persone, invece ne rendono inammissibili, inaccettabili delle altre. Quindi in questo senso appunto è un ordine che molto spesso si configura come etico o addirittura come etnico quando le ordinanze vanno a colpire specifici gruppi sociali, connotati in base alla provenienza. Quindi in questo senso l'ambiguità un'altra, l'ennesima ambiguità che tirano fuori questi strumenti, il modo soprattutto in cui vengono utilizzati, questo qui, vengono utilizzati in nome di una sicurezza e di un ordine di un certo tipo, ma di fatto proteggono e favoriscono un altro tipo di ordine, un altro tipo di progetto sociale, un ordine sociale che è chiaramente gerarchizzato e stratificato. Quindi in alcuni casi questa cosa viene fuori in maniera più esplicita, in altri casi più implicita, ma è una partita centrale, che è nulla di sorprendente, perché si vive in società gerarchizzate e stratificate, quindi non è che c'è nulla di realmente alieno rispetto all'ordine esistente. La questione è, come al solito, è le retoriche, e lo scarto tra le retoriche e gli obiettivi concreti degli strumenti. Quindi tra quello che si dice sì alla società, quello che si dice si voglia fare rispetto alla società, e quello che in realtà è la società e gli effetti che producono questi strumenti sul tipo di ordine. Io forse sì, su questo chiuderei, perché provo, magari poi su alcune cose torniamo dopo, quindi provate a mettere sul piatto alcuni temi che riguardano l'utilizzo e l'impiego di questi strumenti. Quindi, concludendo, l'aspetto più interessante, chiaramente nella drammaticità di tutto ciò che è ruota attorno alla decorosa repressione, l'utilizzo di strumenti amministrativi di vario tipo, è l'aspetto interessante su cui poi si possono innestare anche chiaramente pratiche di lotta, non soltanto di riflessione, è la portata di questi strumenti e la loro contraddittorietà. Quindi un aspetto sicuramente centrale, anche strategico, penso che sia, tornando al discorso di prima, anche il rapporto tra i livelli di governo. Qui ci sono degli spazi interessanti di riflessione su chi dovrebbe fare cosa e su come alcuni enti non vigilano per il momento, ma potrebbero magari tornare a vigilare. Potrebbe essere interessante anche assistere a scontri, come in passato ci sono stati, tra attori istituzionali che hanno portato a trasformazioni. Grazie intanto. Bene, allora, per prima cosa ovviamente ringraziamenti per averci invitato qui a parlare di quello che è successo nel nostro quartiere Vanchia a Torino, e ovviamente sono Michele del Centro Sociale Scatasuna, e inizierei appunto, se Gargiulo diciamo ha iniziato diciamo a livello tecnico e su cosa ha portato le ordinanze, cosa sono a livello giuridico le ordinanze, chi emette appunto queste ordinanze, io mi concentrerò più sugli effetti che le ordinanze hanno avuto e avranno comunque e come ricadute. Partiamo un po' dal dato di fatto, ovvero quello che è successo nella notte tra il 20 e il 21 giugno della scorsa estate nel nostro quartiere, dove ovviamente in seguito alle ordinanze della giunta Appendino, frutto ovviamente di scelte politiche anche precedenti e anche di una determinata visione e di un modo di vivere la città, e cosa appunto hanno portato a, come dire, uno schieramento di celerini, un esercito appunto che è arrivato fin dall'ora dell'aperitivo, quindi dopo ovviamente che tutti escono dal lavoro e si meritano una, magari una sacrosanta birra o appunto uno spritz, e niente, come detto, si sono, come anche le cronache hanno riportato, sono sopraggiunte in forze in piazza Santa Giulia, pronte a far rispettare queste ordinanze. Le ordinanze, come detto anche Gargiulo, ci sono sempre state e sempre ci saranno, presumibilmente, almeno finché non proveremo ad attuare un cambiamento dal basso noi. È un modo anche diverso di intendere la socialità. E questa ordinanza di fatto consisteva nello stop della vendita degli alcolici dalle 3 di una prima ordinanza che era stata emanata il 9 giugno, decretava appunto lo stop di vendita degli alcolici dalle 20 alle 6. In seguito c'è stata una variazione, perché ovviamente i commercianti, ma anche dei locali, non stiamo parlando ovviamente dei mini market, ma ovviamente si erano lamentati e hanno attraverso le loro associazioni e quanto sono riusciti un po' a delimitare questa ordinanza, e che poi sarebbe, come dire, cambiata nel divieto di vendere ovviamente il vetro al di fuori dei locali e appunto il divieto anche di somministrazione dalle due in poi. Ma cosa ancora dove secondo noi dovremmo mettere un po' l'accento è il divieto di, come dire, di sorseggiarsi una qualsiasi birra o un qualsiasi alcolico al di fuori dei locali, quindi, come dire, in uno spazio pubblico il divieto di somministrazione. Questo già ovviamente è un'esagerazione che sembra, diciamo, molto banale, però in realtà ha al di sotto una grande importanza, nel senso, per come viviamo noi gli spazi, la piazza, un luogo di socialità, insomma, questo è un divieto non da meno. Tornando ai fatti, appunto, sono arrivati in schiera i celerini e subito, vabbè, ovviamente come centro sociale non possiamo permettere che, come dire, la questura militarizzi un quartiere intero, però la cosa positiva, buona, è che c'era veramente tutta una piazza a gridare slogan contro questa ordinanza e la presenza della polizia. Dopo una serie di cori, la polizia che non se ne andava, ovviamente, poi hanno deciso di caricare, senza ovviamente guardare chi avevano davanti, se un ragazzo, una signora, se dei bambini. Ovviamente c'è stata tutta una serie di cariche che hanno portato a quello che appunto tutti sappiamo. Quello che a noi interessa un po' analizzare non è tanto il fatto, perché ovviamente di cariche purtroppo anche a Bologna, insomma tutte le città, la repressione si fa sentire in queste modalità, ma cosa ha portato A una reazione di piazza, perché di questo si è trattato, B anche il perché si è arrivati a questo punto. E qua dobbiamo un po' tornare indietro, nel senso che, come dicevo prima, è frutto di scelte politiche innanzitutto, partito ovviamente dalla precedente amministrazione, che banalmente Torino era, come dire, una città che stava proponendo un buon livello di promozione sociale, mettiamola così. C'erano molti luoghi, basti pensare ai famosi Murazzi, un luogo storico della città che adesso tuttora sono chiusi. Quello era un po' un luogo di ritrovo, un po' come poteva essere Piazza Verdi qua a Bologna, nel senso aperto a tutte le categorie sociali, dove ti potevi trovare, come dire, magari dal borghesuccio al punk a bestia, insomma era una composizione molto varia, e appunto sono stati chiusi su ordinanze perché sul mancato rispetto dei decibel, eccetera eccetera. È stato aperto un processo da parte del PM Padalino, che poi ovviamente si è concluso con un nulla di fatto, se non quello di aver tolto alla città un luogo unico e inimitabile dove i giovani potevano avere il loro spazio. Dopodiché, ovviamente, come dire, se chiudi uno spazio sociale, come potevano essere i Murazzi, i giovani ovviamente trovano altre forme, altri modi, altri luoghi dove poter e mettere in moto la loro socialità, perché la socialità penso sia un diritto e una cosa umana che nasce proprio un'esigenza. E dunque si sono riversati un po' nei luoghi, nei quartieri, insomma, che avevano a disposizione dei spazi. San Salvario da una parte, però lì magari con, come dire, studiata anche a tavolino da un certo punto di vista, con appunto la creazione di un determinato settore, dove andare a puntare, ristorantini, eccetera, eccetera. Vanchiglia invece è sicuramente un altro caso a parte, molto diverso da San Salvario, una zona popolare come anche San Salvario, più meticcia anche. Vanchiglia invece è un quartiere molto vicino al centro, molto frequentato dai giovani, soprattutto tuttora con l'apertura del campus Einaudi, e che ha subito anche dei cambiamenti. E quindi appunto i giovani sono cominciati a vedere come Piazza Santa Giulia è un luogo di ritrovo, e dunque appunto si è deciso di concentrarsi lì. E la cosa particolare di Vanchiglia, che insomma vorrei analizzare, è proprio questo cambiamento, nel senso che Vanchiglia, come detto, un quartiere popolare di residenti, si è vista tutta un tratto diventare un quartiere studentesco, appunto con l'apertura dei centri universitari, e dunque ha portato in quartiere molti e molte studenti e studentesse. Ciò ovviamente ha un po', permettetemi il termine, scombussolato le abitudini dei residenti, perché non erano abituati a trovarsi una piazza sempre colma di studenti, che magari fino a un'ora, diciamo non proprio a mezzanotte, però almeno fino alle due, strimpellavano un po' appunto all'aperto, portando a ritornare di nuovo a parlare dei problemi della cosiddetta movida. Questi sicuramente sono degli spunti che hanno portato, come dire, a questi fatti. Se poi sommiamo anche tutta, diciamo, la paura, la psicosi del terrorismo che ha portato al 3 giugno, quando durante la partita di Champions League, nella finale, e appunto ci sono stati circa 1500 feriti causati da una cosa che ancora oggi non si è riuscita realmente a capire, e anche un morto, ovviamente tutto ciò porta, come dire, da parte dell'amministrazione, intanto ovviamente è arrivata l'Appendino a governare la città, e dei cambiamenti, è soprattutto stuzzicata dal PD, che ovviamente il sistema a Torino è ancora presente, e dunque si è ritrovati in fretta e furia a stilare delle ordinanze molto, come dire, fatte anche abbastanza male, che nemmeno loro in realtà sapevano cosa stavano combinando, e spiegarla poi ai cittadini. Questo è appunto un altro aspetto che ha portato a un'escalation di situazioni. E questa appunto la roba di Piazza San Carlo il 3 giugno. L'8 giugno è successa un'altra cosa che secondo noi ha a che fare anche con tema ordinanze e repressione. Nel senso, una nostra compagna, Maya, tornando a casa dopo una serata ai Murazzi, perché noi abbiamo un altro centro sociale ancora attivo ai Murazzi, per fortuna, e che tiene, diciamo, vivo quel posto. Cosa è successo? Tornando a casa si imbatte in un controllo di polizia, e succede che lei ovviamente dice: io sto andando a casa tranquilla, non vedo perché dovreste, insomma, chiedermi i documenti, questo controllo appunto delle zone delle città da parte delle forze dell'ordine. Succede che viene caricata, spintonata, insultata, portata in caserma e malmenata. Adesso è in corso un processo, eccetera, eccetera. Altra cosa, primo frutto dell'ordinanza, l'arrivo, e qui possiamo dire anche come provocazione da un certo punto di vista, primi controlli da parte delle forze dell'ordine per rispettare le ordinanze in Piazza Santa Giulia. Stiamo parlando del 17-18 giugno. Ovviamente i giovani, di fronte alla presenza cospicua delle forze dell'ordine in un luogo pubblico, si radunano e cacciano delle volanti della Piazza Santa Giulia. Questi sono stati diciamo un po' i fatti precedenti a quello che ha portato invece la notte del 20 e 21 giugno alle reali cariche e a quello che è successo. E ovviamente poi i giornali, le cronache cittadine, diciamo, hanno cercato da un lato di, come dire, di puntare il dito contro i 5 Stelle, dall'altro lato, insomma, i 5 Stelle che hanno decretato l'ordinanza si sono un po', come dire, andavano sulla difensiva. L'Appendino aveva, come detto, affermato: noi non sapevamo nulla, è stata tutta un'idea della questura. Ovviamente, insomma, sappiamo bene come vanno le cose, il rimpallo delle responsabilità, però quello che è successo è chiaro. Ha avuto un grande risalto, soprattutto perché c'è stata una risposta forte, perché non si parlava dei sempre soliti 40-50 pagine rose, come i giornali ovviamente hanno voluto scrivere. Ma si tratta proprio di una piazza che ha rifiutato queste ordinanze e ha cacciato la polizia. Questo è un po', diciamo, il quadro della situazione. Poi magari più avanti potremmo parlare delle trasformazioni dei quartieri e tutto, ma adesso magari non so se ci sono domande o passerei la palla. No, ci sono domande, non so come. Ma facciamo il giro, Ah, poi. va bene, allora grazie per l'invito, nel senso che era impossibile, si sente? Non partecipare a un invio, come dire, a un 3 giorni di discussione con un titolo così, come dire, da un punto di vista letterario, felice, provocatorio, ossimorico, no? Decorosa repressione. Io sono un antropologo e faccio fatica a parlare di, come dire, di contesti dove non ho fatto ricerca, quindi parlerò un po' di Bologna in questa dialettica tra due città del nord, nonostante appunto mi pare che tra le parole chiave ci siano appunto decoro, repressione, forme di vita, accoglienza, quindi parole che vanno al di là appunto di questi contesti geografici specifici. Io sono arrivato a Bologna nel 2004. Durante la campagna elettorale di Cofferati, la felice, almeno sembrava campagna elettorale, molto partecipata, ecco, campagna elettorale di Cofferati, beh, dove appunto cominciarono a esplodere un po' queste parole, anche con molto stupore, mi pare, da parte della cittadinanza, no? Se ricordo bene, Cofferati gli venne dato questo epiteto di, no? Di sindaco sceriffo. E se ne parlò molto in città. Non avevo io un immaginario di Bologna come città neoliberale o città più uguale o più diseguale di altri. Il mio immaginario di Bologna era un immaginario costruito per lo più da lettore occasionale del Sole 24 Ore, quando stila le classifiche così delle migliori università o delle migliori città con la qualità di vita più alta. Bologna era sempre tra le prime 3, tra le prime 4, tra le prime 5, adesso forse un po' meno, ma insomma rimane in qualche modo sempre tra le prime città. Facevo un dottorato tra Roma e Milano, quindi allora non c'era il monopolio dell'alta velocità, quindi spesso mi capitava di aspettare i treni nel sottopassaggio della stazione centrale di Bologna, e questo immaginario cozzava un po' con la presenza di tanti senza fissa dimora, che scollettavano, come si dice in gergo, nel sottopassaggio alla stazione centrale chiedendo monetine e altro. E così cominciai a fare ricerca a Bologna, seguendo un po' le traiettorie, anche proprio fisiche, di un gruppo di senza fissa dimora che si muoveva tra una periferia, dove poi periferia, insomma, un luogo dietro la stazione centrale, la Bolognina, ecco, per stare un altro. No, nomi immagini che stanno nel nostro immaginario e che poi passavano le giornate nella principale biblioteca in Piazza Maggiore di Bologna, passando appunto per Piazza Verdi, quindi cominciai a conoscere Bologna con lo sguardo in qualche modo senza fissa dimora, mettendo un po' sotto critica appunto quello che era il mio immaginario su Bologna, quindi come città dell'accoglienza e come città che produceva politiche di inclusione sociale e politiche sociali all'avanguardia, cosa che appunto mi fece pensare molto. Presi casa alla Bolognina, dietro la stazione centrale, vicino appunto a questo dormitorio dove vivevano un gruppo di senza fissa dimora, e mi interessai un po' alla ricostruzione storica di questo quartiere. Ecco, per parlare di Torino in questa dialettica, Bologna non ha avuto sicuramente, credo, insomma, sono uno storico, ma i numeri per per quanto riguarda gli operai del triangolo industriale, quindi Torino, di Milano, di Genova, però ha avuto le sue fabbriche ed erano per lo più ubicate appunto in questo quartiere che oggi si chiama Navile, quindi quella che è stata quella che è la Bolognina, e io mi interessai un po' a ricostruire la storia di queste fabbriche per lo più metalmeccaniche dismesse dopo gli anni 70, che oggi appunto sono capannoni industriali in disuso, sulla maggior parte dei quali non c'è ancora un progetto ben identificato. La maggior parte di questi pugili usavano fuori dal turno la maggior parte di questi operai fuori dal turno di fabbrica andavano a allenarsi in palestre di pugilato, in una in particolare nata negli anni 50 a Bologna. Io entrai per fare delle interviste, però mi trovai davanti non solo a ex operai per lo più immigrati meridionali dal Ferrarese dopo l'alluvione del Polesine appunto negli anni 50, ma tantissimi ragazzi di origine straniera, prevalentemente maschi e di origine nordafricana, e quindi mi interessai un po' alle loro pratiche di vita quotidiana e confrontando un po' quella generazione migratoria, quella che andò a lavorare nelle fabbriche negli anni 50, che quindi seguì tutto quel processo di sindacalizzazione fino agli anni 70, e questa nuova generazione di immigrati che è venuta appunto ad abitare la Bolognina, a cominciare dalla fine degli anni 80, quando le fabbriche hanno cominciato a non esserci più ed è crollato quel modello produttivo, anche quindi chiedendomi anche quanto quel crollo del modello produttivo ha modificato le politiche di costruzione della cittadinanza di molti immigrati che vengono a abitare in questi territori. E per ultimo, così come ho utilizzato la finestra di una palestra di pugilato per leggere un po' quello che c'è fuori, quindi un quartiere, non so se la parola periferia ha senso a Bologna, però un quartiere periferico di Bologna, poi negli ultimi anni ho utilizzato un'altra finestra, quella dello stadio Dall'Ara, in particolare della curva calcistica del Bologna, perché questa appartenenza calcistica ritornava spesso insomma nelle interviste, nelle chiacchierate che facevo con molti interlocutori bolognesi, e mi è sembrato da subito, poi trovo delle conferme in questa direzione, che c'è un rapporto molto stretto tra città e curva calcistica, e quella curva permette di capire alcuni quartieri come sono cambiati nel corso del tempo, vedendo appunto, proprio perché di solito le formazioni di curva si strutturano in curva, ma nascono come gruppi di ritrovo nei muretti, nei centri sociali, nei centri di ritrovo di alcune appunto periferie bolognesi. Insomma, ho conosciuto Bologna attraverso queste ricerche e la domanda che faceva il filo rosso, in qualche modo la domanda sottesa a queste ricerche, è sempre stata un po' che cos'è la bolognesità, forse una domanda un po' scientificamente a cui non si può rispondere, però il ritratto insomma, che ho sempre tracciato è quello di una città portuale. So come altro esprimere, cioè una città appunto che ha ancora oggi meno di 380.000 abitanti, con, adesso non so gli ultimi numeri perché appunto io insegno a Ferrara e non a Bologna, però credo siamo sui 100.000 studenti, non so quante decine di migliaia di fuorisede, e abbiamo come una percentuale significativa di popolazione che fra l'altro non vota a Bologna. Io ho un'immagine di Bologna molto, molto forte di quando è stato eletto per la prima volta Nichi Vendola come governatore della Puglia, e gran parte di Bologna prende i treni per andare a votare Nichi Vendola, non il sindaco bolognese, insomma. Ecco, in mezzo a queste ricerche c'è stata chiesta a me e ad altri colleghi, qui è presente anche Maurizio Bergamaschi, una volta di rispondere a una domanda concentrando l'attenzione appunto su Piazza Verdi, che è un territorio che avete evocato voi poc'anzi, cioè che cos'è il degrado, visto che questa parola fa un po' da coltrantare, o a volte no, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche giustifica in qualche modo quella che abbiamo chiamato in questi giorni, no, decorosa repressione. Ed era una domanda per noi significativa, perché da una parte quello che ci dicevano criminologi, ma in qualche modo le statistiche che leggevamo, episodi di microcriminalità in un territorio del centro storico come Piazza Verdi sono andati man mano scemando dalla metà degli anni 90 a oggi. E quindi non capivamo perché questa percezione di insicurezza salisse, perché no, era chiaro ed evidente che ancora prima del sindaco Cofferati erano tantissime lettere che arrivavano all'amministrazione dicendo ci sentiamo insicuri e vogliamo appunto che interveniate in questa direzione, e parole come insicurezza, degrado, illegalità dei cori di contraltare diventavano ovviamente parole significative per ogni campagna elettorale che poi è seguita dal 2004 ad oggi. E poi ci sembrava una domanda interessante, vado alle conclusioni, parlando di Piazza Verdi, perché era una domanda a cui era difficile, almeno per me, rispondere, per noi come gruppo di ricerca. Degrado per chi? Come dici tu, no? Siamo dentro Piazza Verdi, quindi un luogo molto circoscritto della città, dove abitano per lo più 400-450 residenti, che però è attraversata da 50.000 persone ogni giorno. Ed è un luogo simbolico in qualche modo della città, anche per il suo posizionamento. Un luogo, fra l'altro, anche eccezionale, almeno per me, che non sono bolognese di nascita, non so se a Torino si può trovare un luogo di questo tipo, perché, come dire, io che sono nato a Roma non mi verrebbe da fumare o suonare o ballare davanti a Montecitorio, e penso nemmeno a Milano, a uno, no, che è davanti al Duomo e così via. Cioè, Bologna ha in quello spazio, come dire, proprio in pieno centro storico, uno spazio che non è assolutamente museificato, insomma, come avviene in altre città universitarie. E degrado per chi? Nel senso che quando andavamo semplicemente, non tanto antropologi, ma semplicemente col registratore, come si a dar parola, prima ancora che studiare, per gruppi di, come si chiamavano allora, banca bestia, il degrado era appunto i poliziotti che non facevano nulla e stavano davanti a quel bar, per gli studenti il degrado era Umberto Eco che camminava male, occupava lo spazio dei portici, per Umberto Eco il degrado erano gli studenti fuori sede che invece hanno appunto altrettanta modalità criticabile proprio dal punto di vista estetico di occupazione dello spazio fisico dei portici attorno a Piazza Verdi e così via, insomma, cioè, ognuno diceva che il produttore di degrado era l'altro, quindi come ci muoviamo? E quindi la domanda ancora una volta è chi amministra? Amministra per chi? Perché la tesi che portavamo avanti era quella per cui effettivamente non stavamo davanti a episodi di, capirai se criminalità organizzata, ma di microcriminalità che potevano spaventare in qualche modo, ma c'erano problemi di difficile convivenza tra attori sociali diversi che convivevano in uno spazio circoscritto, dovevano convivere in uno spazio circoscritto e che avevano aspettative riguardo a quell'uso della piazza molto diverse. Nel senso, Piazza Verdi, quando andavamo perché secondo la storia era Bologna, c'era un immaginario che era legato ancora agli anni 70, agli anni 80 e che si riproduceva fuori appunto dalla città di Bologna. Ecco, io concludo semplicemente portando forse un unico elemento di riflessione, cioè il fatto che una cosa che mi ha incuriosito ai tempi della ricerca su Piazza Verdi, ai tempi in cui queste parole diventavano, no, significative per ogni campagna elettorale, è che non solo c'erano pochissime ricerche, ma che quando si parlava di degrado e appunto di contrattare il decoro, se ne parlava come se fossimo, penso, in un film di Carpenter, no? Cioè, a un certo punto c'è questa nebbia che è calata su questo territorio di Piazza Verdi, ma chissà perché, però la diamo come dato di fatto e dobbiamo appunto intervenire. Quindi qualcosa di analiticamente vuoto, che nessuno in qualche modo aveva mai studiato e che quindi era facilmente strumentalizzabile a livello politico da una parte e dall'altra. Eppure ci trovavamo, ecco, in un territorio che è a tutti gli effetti un luogo simbolico di Bologna, dove ce ne sono altri, ovviamente in altre città, perché è lì che è caduta una signoria, come dire, è sempre stato un luogo di incontro tra le classi più popolari della città e quelle più ricche. Il 77 non è un caso che ha fatto di quella piazza in qualche modo il teatro di quei giorni di protesta, e così anche i movimenti che sono venuti dopo, insomma, che si richiamano a quel luogo e ad altri movimenti. Altra cosa, credo che, insomma, se parliamo di amministrazioni che devono governare una città, vale la pena, noi siamo forse un po' snob su questo, ma valutare anche i dati quantitativi. Se è vero che i residenti sono pochi, per esempio in uno spazio di quel genere, è pur vero che nel 68, no, prima dell'università di Massa, c'erano 15.000 studenti a Bologna su 500.000 abitanti. Oggi siamo in un rapporto in cui sono 380.000 abitanti e 100.000 studenti, cioè qualcosa è cambiato, no, notevolmente. Oppure, so che ne parlerete magari nel pomeriggio, c'è cioè Giovanni Semi e altri, c'è stato tutta una serie di politiche, di liberalizzazioni, se pensiamo anche a Bersani e a quel periodo storico-politico che ha cambiato completamente il tessuto commerciale di Piazza Verdi. E questo ovviamente avrà prodotto delle conseguenze. O penso anche alla stessa università, no? Le riforme universitarie che ci sono state, la triennale. E quindi il cambiamento, quando parlavamo con gli studenti, c'era un modo profondamente diverso di nominare Bologna, no? Come città in cui stare anche una volta finiti gli studi. C'era un rapporto molto più predatorio che derivava anche da politiche del sistema universitario. Penso anche a quando sono caduti alcuni paradigmi sociali perché si è passati da un paradigma che non era più quello del reddito ma quello del merito. Penso anche a una miopia nel momento in cui si è scelto di fare di Piazza Verdi un luogo dello spaccio, pensando perché lì non c'erano scuole, c'erano pochi residenti, ma in verità era un'area fortemente attraversata. Insomma, tutta una serie di politiche, come dire, che andrebbero studiate e che hanno prodotto delle conseguenze, no? Quindi il degrado non cala dall'alto, no? E quindi a cui fare delle politiche appunto repressive o di ordinanza come le stavate evocando, ma è il frutto anche di politiche amministrative circoscritte che andrebbero studiate, ovviamente non tutte le responsabilità dell'amministrazione, però insomma si dovrebbe partire da là. Per esempio tu dicevi la partecipazione, a me ha sempre stupito il fatto che negli ultimi anni, se penso a aree come Piazza Verdi, che appunto sono teatro di queste ordinanze, ha sempre stupito il fatto che negli ultimi anni i comitati di quartiere sono proliferati in maniera esponenziale, no? Allora, da una parte questo mi fa pensare che su alcuni territori c'è un'affettività, non è vero che c'è un'affettività, no? E c'è una partecipazione evidente. D'altra parte questa però proliferazione e quindi il fatto che siamo davanti a volte a comitati di quartiere rappresentati anche da due persone che ovviamente confliggono l'un l'altro su appunto il modo in cui bisogna stare a Piazza Verdi o su semplicemente di chi è e chi dovrebbe essere Piazza Verdi, quindi chi governa per chi dovrebbe governare, è il fatto che questa proliferazione mi fa anche venire in mente, come dire, mi fa anche pensare che c'è una incapacità totale di sintesi politica e di disegno politico che produce appunto tutta una serie di attori sociali che poi trovano molto spazio nei media e producono una conflittualità significativa. Insomma, in sintesi quello che mi viene da dire è che se da cui appunto il piacere di sentirvi parlare di queste cose e la necessità appunto di parlarne, se in qualche modo non le si affrontano anche analiticamente, diventano contenitori vuoti in cui è facile da un punto di vista politico strumentalizzare e produrre appunto delle politiche di questo tipo. Forse dovremmo chiederci anche perché in alcuni territori sono prodotti dei fenomeni di convivenza conflittuale che non hanno nulla a che fare, almeno in questo caso, con microcriminalità o episodi di questo tipo, ma hanno a che fare con cambiamenti strutturali che sono al portato anche di politiche amministrative, a volte miopi, a volte semplicemente che non ci sono state, insomma, a fronte di cambiamenti evidenti del tessuto sociale, demografico, commerciale, universitario di una città. Allora, lasciamo un attimo spazio a interventi, quindi prima di fare io qualche domanda, in realtà vediamo se dal pubblico c'è qualcuno. Su un gruppo di ordinanze dal mio punto di vista particolarmente paradigmatiche, ovvero quelle legate alla mendicità. Nel nostro codice penale era previsto dall'Ottocento il reato di mendicità. Il reato di mendicità viene cancellato dal nostro codice penale nella seconda metà degli anni 90. Ma, e questo è l'aspetto, viene reintrodotto con l'ordinanza, col meccanismo dell'ordinanza, dato peraltro generalizzato anche in altri contesti europei. Ad esempio in Francia le prime ordinanze sono proprio intorno alla questione della unicità delle città turistiche. E un altro elemento che mi sembra interessante è che la mendicità è interdetta mediante ordinanza non su tutto il territorio cittadino, ma in determinati luoghi, cioè colpisce in termini situazionali, per cui è interdetto ad esempio davanti agli ospedali o in quella determinata piazza o davanti a un'altra sede che si ritiene non adeguata. Cioè, quindi, e questo elemento, cioè situazionale, lo ritroviamo in tante altre ordinanze. Ad esempio, da questo punto di vista, quello che è successo a Bologna negli ultimi anni rispetto alle ordinanze sull'alcol è emblematico. Cioè, ogni zona di Bologna aveva la propria ordinanza che vietava la somministrazione o comunque i bere alcolici, ma ad esempio in Bolognina era interdetto a partire dalle 9 di sera, zona stazione dalle 7, in quell'altra dalle 8, cioè per cui tu magari dovevi andare in giro costantemente con un cabellino dire bene allora. No, è così, cioè, perché quello che mi aveva colpito, che diceva beh cazzo, conoscevo l'ordinanza della Bolognina dove si può bere, fino alle 9 si può bere, sono dalla stazione, sono le 8, posso tranquillamente bermi la birra senza incontrare alcun tipo di problema. No, il problema lo incontri, perché zona stazione invece l'ordinanza scatta a partire dalle 8. E guardando quelle ordinanze lì trovo questo elemento, no? Ma al di là appunto di questa difficoltà di orientarsi nel mare delle ordinanze, quello che secondo me è interessante è che le ordinanze vanno a colpire, vanno a toccare pezzi specifici di città, cioè a differenza del reato, quale poteva essere il reato di mendicità, che colpiva evidentemente, essendo un articolo del codice penale, funzionava indipendentemente dal luogo in cui il reato veniva commesso, qui scatta il provvedimento in relazione a un determinato luogo e a un determinato momento della giornata, quindi si va a configurare all'interno di una coordinata spazio-temporale, cioè per cui tu puoi bere alcol in un determinato luogo in un determinato tempo, non puoi bere alcol in un determinato luogo in un determinato tempo. E questo secondo me è un elemento che ha un suo interesse, perché da un lato, come dire, c'è un superamento, almeno in alcuni ambiti evidentemente, delle norme previste dal codice penale. Perché di fatto, adesso torno un attimo sulla questione della mendicità, la mendicità era un reato che fino ai primi anni, decenni del Novecento registrava tassi molto elevati. Poi di fatto negli ultimi decenni, a partire dagli anni 60, di fatto le statistiche non registravano denunce per mendicità, cioè era un reato. È ancora previsto dal codice penale, ma di fatto le statistiche registravano numeri irrisori di denuncia per mendicità. E quindi a quel certo punto non ci sono denunce, quindi tanto vale toglierlo dal codice penale. E appunto Ferrero, il ministro di Rifondazione, a un certo punto cancellò quell'articolo del codice penale. Ecco, però la cosa secondo me è ancora più complicata, e faccio sempre riferimento a questa storia della mendicità perché mi sembra che possa aiutarci a fare un ulteriore passaggio. La persona senza dimora che chiede appunto l'elemosina, chiede, raccoglie soldi, da un lato è colpito nel momento in cui si ferma davanti a un luogo in cui è interdetta la mendicità e lì è soggetto a un provvedimento, cioè rientra nella ordinanza, cioè diventa un soggetto pericoloso, un soggetto criminale. Quindi il senza dimora come figura, come della pericolosità sociale. da un lato, ma contestualmente, grosso modo, nello stesso momento storico, il senza dimora è anche rappresentato nell'ambito delle politiche sociali come soggetto che, a cui va riconosciuto il diritto all'assistenza, in particolare a partire dalla 328 che citava Enrico nel suo intervento. Per cui il senza dimora è contestualmente soggetto pericoloso e soggetto vittima che richiede assistenza. E molto spesso questa ambivalenza è presente. Cioè, per cui da un lato bisogna intervenire, c'è la necessità di un intervento pubblico, poi poco importa se viene demandato al terzo settore o altro. Al contempo però è soggetto che deve essere allontanato da determinati luoghi. Ultima cosa, poi mi taccio. Contestualmente questa figura viene allontanata, ma attenzione, non repressa, perché l'allontanamento non coincide immediatamente con la repressione. Cioè, negli ultimi 20 anni a Bologna il numero dei posti letto per figure della marginalità si è moltiplicato, cioè non ci sono dubbi. Cioè, all'inizio degli anni 90 i posti letto per queste figure non arrivavano alle 100 unità. Oggi i posti letto, si può dire che sono inadeguati, tutto quello che si vuole, però sono quasi 500. Cioè, quindi è un dato. Ma accanto a questo dobbiamo registrare un altro elemento, che le strutture dell'accoglienza, e questo si potrebbe anche allargare questo passaggio a richiedenti e rifugiati, sono sempre più collocate all'estrema periferia della città. Cioè, se all'inizio degli anni 90 la struttura di accoglienza più importante che c'era a Bologna era appena fuori porta San Donato, quindi diciamo nella primissima periferia, adesso sono al Lazzaretto, sono a Pallavicini, cioè posti di fatto irraggiungibili. Prima di entrare, ho fatto un passaggio in Cineteca, cioè dove c'è uno di questi che vende Piazza Grande, la figura storica, e che l'hanno trasferito ultimamente, lui stava prima al Sabatucci, cioè quindi fuori San Donato, adesso sta al Lazzaretto, ed era con Enrico, ed era incazzatissimo perché dice è irraggiungibile, cioè peraltro questo ha dei problemi di mobilità molto importanti, e quindi dice io finisco di vendere il giornale Piazza Grande e devo sempre trovare qualcuno che mi dia un passaggio per arrivare lì, perché dovrei camminare tantissimo e non riesco, perché lui cammina con una stampella, perché ha dei problemi ai piedi, vabbè. Quindi l'allontanamento di determinate figure non coincide immediatamente appunto con la repressione, a volte anche evidentemente, no? Però a volte, come dire, le strategie di ridefinizione del corpo urbano marciano su dei canali, su dei percorsi che non sono così come immediatamente codificabili nei termini della repressione. Perché, ripeto, la persona senza dimora comunque è pienamente legittimata come soggetto di intervento. C'è stata una produzione normativa in questi anni rispetto a queste figure pazzesca, cioè sempre più leggi che sembrano che sia diventata una categoria di intervento, non dico prioritaria, ma quasi. Quindi, però ecco, adesso chiudo, tutto questo però contribuisce a ridefinire la città, cioè a ridefinire l'immagine, la rappresentazione e la materialità della città, poi, perché non è poi solamente una questione di immagine. Cioè. Andando a, come dire, e qui secondo me era interessante quel passaggio che veniva fuori nella giornata di ieri, cioè sulle zone grigie, cioè lì era riferito soprattutto alle popolazioni urbane, ma le stesse città hanno delle zone grigie, cioè diventa sempre più difficile definirle in termini puntuali, perché se vogliamo, per dirla proprio velocemente, la città fordista, che era una città in bianco e nero in qualche modo, adesso invece quella che chiamiamo città neoliberale, chiamiamola come ci pare, cioè comunque la città che viviamo, è una città invece densa di zone grigie, cioè dove interi quartieri hanno questa, si definiscono, non a partire da un tratto, quindi quartiere operaio, la Bolognina di cui parlava Giuseppe, quartiere operaio storico, sede di insediamenti industriali con una classe operaia ben riconoscibile, eccetera, eccetera, che votava partito comunista, bla bla bla, tutta quella roba lì che abbiamo visto. Cioè, sempre più i quartieri, l'intera città, io credo che quella categoria appunto lì di zona grigia che veniva nell'ultima parte della ieri, veniva continuamente evocata, io credo che sia una, come dire, una categoria alla quale vale la pena prestare una grande attenzione anche nella lettura delle cose che venivano dette nei vari interventi, Giuseppe, Michele, e anche nella lettura della città nel suo insieme, perché altrimenti veramente rischiamo di non capirci nulla, ma se fosse solo questo devo dire che la cosa non mi preoccuperebbe tanto, ma quello che mi preoccupa e quello che ritengo sia poi alla fine più rilevante è che avvera la possibilità di pensare politicamente la cosa, perché se non cogliamo questo siamo, come dire, siamo del tutto disarmati politicamente, perché ripeto, se sul piano analitico le robe, come dire, ci sfuggono, devo dire che può essere un problema per chi fa ricerca, ma sul piano sociale la cosa non è poi così drammatica. Sul piano sociale diventa un problema se non disponi di una lettura che ti arma politicamente. Questa è la questione. E quindi quello che si diceva ieri sera, la zona grigia è quella che ti permette di uscire da quell'impasse che oggi vivi. Quindi cogliere quello che è successo a Piazza Giulia è straordinario, cioè nel senso che le centinaia e centinaia di ragazzi che erano lì non erano certamente tutti militanti della Scatasuna, questo è certo, cioè, nel senso, cioè sicuramente la Scatasuna lì ha una sua presenza storica, eccetera, eccetera, un suo ruolo, eccetera, ma mi sembra improbabile, come dire, arruolare tutti quei ragazzi che si bevono le birrette lì in piazza Santa Giulia come militanti della Scatasuna, adesso col massimo rispetto per la capacità di essere all'interno del territorio della Scatasuna, però direi proprio di no, ecco. Però è importante essere dentro a quella situazione lì, cioè è importante essere dentro a quella situazione lì e capire che quei ragazzi lì che erano lì per bersi semplicemente una birra, però poi hanno avuto una capacità di risposta rilevante. Provo anch'io a ricollegarmi ad alcuni aspetti che erano emersi ieri sera e ritengo un altro centrale, altrettanto centrale rispetto a quello che citava Maurizio adesso, che è quello appunto che da un lato c'è la repressione, dall'altro c'è la produzione essenzialmente anche di valore economico. E lo farei a partire da un aspetto apparentemente marginale e folcloristico, perché quando si parla di ordinanze, i giornali lo fanno sempre in questo modo, si finisce sempre per fare del folklore politico, perché sono veramente ridicole queste ordinanze. Eppure nel loro ridicolo, nei passi della loro gag, possiamo leggere qualcosa di molto significativo. Nelle ridicole ordinanze, tra l'altro appunto contraddittorie e complesse, sicuramente uscirà prima o poi un'app per muoversi e bere evitando le ordinanze a Bologna, c'è sempre un'intestazione, c'è sempre una premessa ideologica dichiarata, anche se appunto la prima volta che l'ho letta l'ho trovata ridicola, però come dire, aggiungendo le riflessioni, aggiungendo quelle di oggi, non lo è. La premessa è: questa è un'ordinanza contro l'alcolismo e contro la dispersione del vetro. Queste sono le premesse delle ordinanze anti-alcol del Comune di Bologna. Folklore, folklore. Però, come dire, anche diffusione ideologica di quello che è il modello che si sta contrappannando nella città, che è quello del disciplinamento dei consumi individuali come necessario, cioè del dover condurre da parte del cittadino una vita decorosa, in modo che anche la città sia decorosa. Questa cosa si lega moltissimo al discorso che attraversa, secondo me, tutti i temi del cibo ultimamente e soprattutto delle declinazioni, diciamo, dei grandi eventi che riguardano il cibo, FICO, Expo, naturalmente, che vanno tutte a parare al termine del discorso del godimento alla slow food, di quanto sia buono mangiare, trovarsi a tavola e capirsi attorno a una tavola, però vanno tutte a parare nel fatto che mangiare bene significa non ammalarsi, e non ammalarsi significa, l'ha detto Renzi esplicitamente nei discorsi sul post-Expo, pesare meno sul Servizio Sanitario Nazionale. Allora, questa premessa ideologica, curiosamente farlocca e ridicola, in realtà ci riporta alla produzione e all'estrattivismo, perché dietro questo discorso poi c'è estrattivismo urbano, c'è di nuovo il tema del cibo, c'è il tema che appunto a Bologna si declina nel FICO, ma si declina anche per esempio in Piazza Verdi, che è grande luogo appunto di attenzione ordinamentale, ma anche luogo in cui si produce il senso della città del cibo. Allora io ti dico, tu devi mangiare bene, tu devi bere disciplinatamente e ti accolgo in una città che è super pompata di soldi pubblici per poter aprire luoghi dove tu mangi disciplinatamente, per esempio il Cool Lab, ex, per chi studiava ai tempi, Scuderia di Piazza Verdi, ex mensa universitaria, è paradigmatica, cioè lì si va da un luogo in cui si faceva un servizio, si forniva un servizio di mensa alla componente studentesca della città, a un luogo che diventa un luogo fighetto in cui si impara a mangiare in maniera decorosa, in maniera sana, in modo da non pesare sul welfare. E lo si fa, quindi c'è questo lato ideologico che si accompagna poi concretamente nel fatto che mentre dal lato cittadino si spinge sul decoro, dal lato nazionale si spinge sul welfare privato e si spinge in maniera molto brutale. I contratti di pubblico impiego adesso per esempio lo incorporano in maniera vistosa, ma dall'altro lato più banalmente in Piazza Verdi vuol dire 3 milioni di euro messi lì per questioni di decoro. Oppure vuol dire inserire nel proprio discorso il mercatino dei prodotti sani, perché appunto ti insegna a mangiare bene. E chiudo, perché appunto volevo solo evocare questo aspetto con una cosa un po' inquietante. Allora, questa, c'è un accenno di Enrico prima che ricopererei, quello sullo stato etico. Questo è un discorso in fondo che si rinfila nello stato etico e mi viene da pensare appunto allo stato etico per eccellenza, lo stato nazista, che nel momento in cui cerca di... lo scopo reale è quello di attaccare la socialità dell'osteria, lo fa anche il fascismo ovviamente, lo scopo è di attaccare la socialità d'osteria, però qual è lo scopo dichiarato? Lo scopo dichiarato è attaccare l'alcolismo, ed è curioso come appunto nelle premesse di queste ordinanze ci sia l'attacco dell'alcolismo, quando in realtà lo scopo è da un lato appunto quello di attaccare una socialità non particolarmente disciplinata, non particolarmente decorosa, e dall'altro è creare le premesse ideologiche per un'operazione che è di estrattivismo essenzialmente, cioè che è di passaggio di pezzi del pubblico in mani private. Questo per collegarmi appunto al rompere quella duplicità che ieri sera è emersa molto forte, questa necessità di rompere la duplicità tra repressione e produzione invece di una città neoliberale. Ma visto che sono stati due interventi abbastanza corposi, io ridarei un secondo la parola ai relatori. Chioso un secondo. È notizia di due giorni fa che, a proposito del consumo di alcol, una cooperativa di Bologna ha vinto l'appalto per mandare degli educatori fuori dai locali e convincerti, credo, a bere meno. Qualcosa molto inquietante, mi sembrerebbe di avere la mia zia novantenne che dice bevi meno, però diventa ancora più... tra l'altro, esatto, bevi di più, poi per forza diventa ancora più invasivo, e in termini di produzione di corpi grigi che devono esercitare una sorta di controllo sulla città, ci siamo pienamente. Ridò la parola a voi perché vi hanno tartassato, quindi... Sì, ho scusato, vedete sull'estrattivismo il caso di Porta Palazzo, Vanchile, se vuoi accennarlo, lì è il nostro super. Te l'ha lanciata. Questa è una domanda. Vabbè, sì, nel senso, Torino ovviamente è molto diversa da Bologna, sia come composizione, sta diventando una città studentesca, è vero, universitaria, quella che un tempo era definita il dormitorio della Fiat, ovviamente, anche perché obiettivamente la Fiat a Torino non c'è più, e si voleva magari su alcune proposte politiche farla diventare una città turistica, in realtà sta diventando una, appunto, una città universitaria. Città universitaria vuol dire anche che, venendo molti studenti da fuori, ci sono tutta una serie di cambiamenti in cui, come appunto dicevamo, Vanchia è un caso, San Salvario un altro caso, Porta Palazzo anche adesso sta, come dire, diventando un nuovo luogo da, diciamo così, da mercificare, nel senso creare ad hoc attraverso degli investimenti, far aprire locali in modo tale appunto da creare un giro di business alla fine sempre per i soliti, obiettivamente, perché queste qua sono manovre articolate proprio a tavolino, nel senso c'è una zona, puntiamo su quella zona lì, là sfruttiamo fino in fondo e poi vediamo quello che ci potrà dare. E io vorrei, appunto, dato che nel senso la viviamo molto come situazione, parlare un po' di come Vanchia come quartiere è cambiato, nel senso la cosiddetta movida comunque incide nella vita di un quartiere, come nel San Salvario, con appunto la chiusura delle botteghe, quindi con l'apertura sempre di centri commerciali e tutto, e di locali, porta appunto che le botteghe, i piccoli artigiani chiudono e via dicendo. Vanchia adesso sta assumendo anche questa forma qua, e dove un tempo magari c'era le verduriere, adesso ci sono, vengono aperti dei ciupitari, nel senso dove l'obiettivo appunto è quello di mercificare il tuo divertimento. Questo è un altro aspetto che tendiamo un po', come dire, sottolineare, perché ovviamente la movida ha degli aspetti positivi, nel senso tutti i concentramenti di persone sono per noi militanti, come dire, un'occasione per portare determinati valori, determinate idee e creare dei percorsi. Dall'altro lato poi c'è chi vuole magari sfruttare questa tua socialità, nel senso, noi che viviamo gli spazi sociali ovviamente abbiamo una logica diversa al di fuori del business, e quindi questa gentrification, questo, chiamiamola come ci pare, insomma, va in questa direzione. E un'altra cosa particolare di questi cambiamenti dei quartieri la notiamo in questa eterna sfida tra residenti e giovani, perché l'altro qualche mese fa in Vanchia siamo andati a una riunione dove appunto si discuteva dei problemi legati alla movida, dove da una parte si invocavano ovviamente più forze dell'ordine per, come dire, e risolvere alcuni problemi porati dalla movida, come può essere lo spaccio, sì, e quindi più controlli, e la presenza delle forze dell'ordine massiccia nelle piazze, in modo tale, insomma, da tenere tutto a bada e che vada tutto bene, non sporchiamo, in questioni di decoro, dalla pulizia dall'altro, insomma, tutte, come dire, argomenti che da un certo punto di vista, perché i residenti comunque hanno un valore importante per un quartiere, quindi bisogna anche avere a che fare con quelle rivendicazioni lì. Dall'altro ovviamente c'è un lato giovanile che sta uscendo, che vuole protagonismo, che giustamente si riversa nelle piazze per cercare una socialità diversa, una socialità dove appunto si creano dei percorsi, e fare in modo che queste due cose non vadano l'una contro l'altra, perché alla fine siamo, come dire, due facce della stessa medaglia, perché ovviamente poi tutti le ricadute politiche le subiamo, sia il pensionato che il giovane, quindi insomma dovremmo cercare magari di avvicinarci e, come dire, utilizzare il buon senso per, come dire, determinare e trovare delle soluzioni, cosa che poi in realtà le amministrazioni comunali invece non fanno, perché ovviamente, come dicevamo prima, si sceglie l'obiettivo da, tra virgolette, abbattere e si punta su quella senza poi in realtà andare realmente ad analizzare la situazione. Questa è proprio, come dire, la mancanza delle istituzioni nei luoghi che quotidianamente viviamo, ed è un po' proprio quello che sta succedendo a Torino adesso. San Salvario è un altro caso. San Salvario è sempre stato un quartiere meticcio, un quartiere popolato da immigrati, che improvvisamente da un giorno all'altro si è risvegliato un quartiere di movida con tanti localini aperti così, dove diciamo sembra che fino alle 6 ci sia un quartiere, dalle 6 in poi il quartiere cambia, cioè una sorta di cambio di composizione. Sono tutte cose con cui comunque come militanti poi ci si trova ad affrontare, e cercando poi ovviamente quando succedono cose come Piazza Santa Giulia, anche il cercare di far uscire realmente le cose come sono accadute, perché ovviamente poi hai i media che da un lato cercano di sfruttarti per scagliarsi contro l'oppositore, quando poi in realtà anche loro, come dire, hanno contribuito a queste situazioni qua. Come dire, molto molto complicato, anche sul come uscire, su anche per chi ovviamente fa politica in quartiere da tanti anni, cercare di dialogare con entrambe le composizioni. E niente, insomma, poi qua mi taccerei, tanto penso di aver risolto. Io provo a fare una domanda esplicitamente sulla questione delle ordinanze, perché roba che vorrei venisse un pochettino messa a tema è la questione di uno stato di eccezione che viene reso ordinario, no? Dello straordinario che diventa ordinario. Non è casuale, secondo me, che l'ordinanza a Pendino, i fatti di Santa Giulia, siano di giugno. Non è un caso il fatto che la maggior parte delle ordinanze che ricordiamo sono ordinanze emanate nell'estate, quando la socialità invade le piazze, no? Il più delle volte. Non è un caso, secondo me, anche il fatto che molte di queste riguardino la notte, riguardino su Bologna, l'esempio più chiaro è il fatto che tante riguardano lo spazio di Piazza Verdi, però c'è è stato imposto un divieto diffuso a tutti i bar del centro di chiudere alle 3, che è una limitazione stringente della vita notturna, no? E questa dinamica qua, poi quella di chiudere sull'estate, di chiudere sulla notte, ordinanza dopo ordinanza, proroga dopo proroga, finiscono per invadere anche l'ordinario, cioè anche il giorno, anche l'inverno, e di diventare in qualche modo delle strutture permanenti di disciplinamento delle città. E questa è una roba che secondo me un attimino dobbiamo cercare di capire, perché alcune ordinanze, come quelle bolognesi per esempio, sono magari attive dal 2015, dovevano finire a ottobre 2015, attivate nell'estate, sono ancora attive. Cioè la Bolognina vive un'ordinanza che è stata emanata nel 2015, prorogata di settimana in settimana, da ottobre poi diventata permanente in qualche modo. E quindi è anche un tipo di governo che Ieri parlavamo, no, dei dispositivi repressivi, dei fogli di via, dell'utilizzo di procedure amministrative per velocizzare la repressione dei movimenti e delle istanze antagoniste. In questo caso vediamo come un po' allo stesso modo ci sia una spinta all'amministrativizzazione anche della gestione della città. E questo è un pochettino un primo punto. L'altro che di cui vorrei discutere un pochettino insieme a voi è la questione che un pochettino parlare di ordinanze può sembrare, secondo me, oggi un po' retro rispetto alla gestione politica della complessità urbana, no? Perché se penso alle ordinanze, la memoria porta a Cofferati, in qualche modo, come su Bologna, come simbolo di una stagione di ordinanze dure, repressive e anche contestate. Io facevo i primi anni delle superiori, ricordo volantini molto divertenti portati nelle scuole in cui il sindaco sceriffo veniva rappresentato sui cartoni di LSD con frasi, giochini e robe del genere. Era molto, comunque c'era un immaginario che provava a sovvertire quello del sindaco sceriffo ed era centrale quella battaglia lì. Se penso oggi invece alla gestione politica della città, penso a Matteo Lepore, no? Che è un soggetto completamente diverso, un modo completamente diverso anche di fare politica e di amministrare una città, che ha poco a che fare col sindaco sceriffo che possiamo individuare in Cofferati. È chiaro che queste due figure coesistono e si rafforzano, questi due modi di gestire la città si rafforzano vicendevolmente. Però in qualche modo da militante penso che sia molto più facile. Il modo di Lepore è quello di cui parleremo oggi pomeriggio, no? Quello della gentrificazione, quello che in Piazza Verdi al posto delle ordinanze ha portato dei container con la street art, il beverage e i cocktail, e quella roba ha funzionato molto molto di più di quanto le ordinanze abbiano fatto, perché di fronte alle ordinanze i negozi alimentari, i cosiddetti banga, no? I pakistani che vendono le birre, si sono subito riorganizzati. Cioè di fronte all'attacco repressivo puro c'è stata subito una riorganizzazione dal basso perché determinate dinamiche potessero continuare a esistere, no? Cioè i frigoriferi, ora non dirò al microfono quello che succede dentro i negozi alimentari, per i compagni e le compagne che vendono le birre è fondamentale che questi trucchi rimangano nascosti. Al di là di questo, i container in Piazza Verdi hanno avuto un effetto molto più significativo e colpendo sia le ordinanze in questi progetti delle zone che sono grigie e complesse, un po' come lo spazio di cui si parlava ieri, perché sono difficili da difendere anche da un punto di vista militante, cioè è difficile dire tengo Piazza Verdi in toto per come è adesso, no? È difficile anche opporsi al modello dei container, cioè bisogna trovare delle parole chiave interessanti, bisogna costruire una critica che è molto più difficile da costruire. E quindi da militante dico, credo che sia ancora fondamentale parlare di ordinanze perché sono punti di condensazione in cui è più facile organizzare risposta. Perché sono la base che poi permette quei processi di gentrificazione e secondo me su quelli è più facile attaccare, è più facile costruire sinergie. Perché per quanto le ordinanze siano selettive nei luoghi geograficamente, nelle fasce orarie, però quando agiscono, agiscono su tutti, cioè il bar che chiude alle 3 è il bar più terribile frequentato da microcriminali, ma è anche il bar più chic, allo stesso orario, cioè di fronte a quello chiudono tutti. E così come in piazza i cosiddetti punk a bestia che bevono le lattine non possono starci, non ci può stare nemmeno chi ha preso il cocktail da 5 euro nel bar di fianco. E di fronte a quell'ordinanza lì c'è possibilità di ricomposizione in qualche modo. Mentre quando entra il container, chi può accedere, chi non può accedere sta fuori. Ed è difficile che queste due figure si parlino. Il caso di Torino, secondo me, è ovviamente emblematico in questo, però era un pochettino per riportare il discorso sulla questione delle ordinanze e capire se intorno a questi due punti. Ma il container, scusa, cioè, hanno messo un container per questo da Firenze, cioè ho dei problemi, ma questo non lo conosco. No, no, no. Telegrafico perché magari pomeriggio ne parliamo un po' di più. È un progetto di riqualificazione della zona per cui hanno messo dei container con cibo, bar, però non in pianta stabile, cioè sono robe rimovibili. E che di fatto perimetrano una via chiudendola la circolazione. E non tutti possono accedere. Cioè no, ci sono delle guardie private che delimitano l'accesso dalle 6 alle 2 di notte. Io vorrei fare una domanda, mi interessa più l'aspetto, diciamo, legato delle ordinanze, legato alla marginalità più che alla questione della movida. Volevo capire se è solo una sensazione o se corrisponde a una tendenza reale che la repressione si stia spostando un po', forse Enrico l'ha accennato prima, dalla condotta, dal comportamento allo status. perché mentre le prime ordinanze che abbiamo conosciuto riguardavano appunto l'accattonaggio, che comunque è facilmente anche riconducibile a uno status, però l'esercizio della prostituzione eccetera eccetera, adesso con la legge Mini Orlando, il Daspo Urbano, le zone off limits, c'è questa sensazione qua. Faccio un esempio: qualche settimana fa a Bologna è stato emesso un Daspo per 10 senza tetto che dormivano nei pressi della stazione. Ora è difficile pensare che dormire possa essere considerato una condotta, non avere una casa è una condotta, certo è un'azione, ma e quindi c'è questa sensazione qui, cioè è una messa a sistema. L'altro aspetto riguarda la retorica con cui si è arrivati a questo punto. Io ricordo un celebre manifesto elettorale di una campagna di Berlusconi che diceva aiutiamo chi è rimasto indietro, tradendo un certo darwinismo socio-economico che oggi è ripreso. Prima che iniziasse questo incontro, su Facebook ho visto un cartello elettorale identico di Matteo Richetti, che è del PD, insomma, quindi... come dire, forse questo è stato anche agevolato da processi che a Bologna, nei confronti della marginalità, abbiamo visto sempre nell'infausta epoca Cofferati, visto che si parlava di ossimori, no? Una decorosa repressione è un ossimoro, noi abbiamo avuto l'accoglienza disincentivante, che è dire va bene, noi vi accogliamo, però innanzitutto vi accogliamo, cioè senza tetto vi accogliamo, ma se siete senza tetto di Bologna e non se siete senza tetto di altre città, che anche questo è un po' difficile da cosa deve fare uno per dimostrare che è sempre stato per strada ma a Bologna. E quindi, però, l'ultimo aspetto che volevo chiedere era, come dire, come poi questa retorica in realtà abbia fatto breccia per scatenare l'odio verso i poveri e verso i diversi, e che appunto, io ricordo sempre nell'epoca Cofferati c'era la questione dei lavavetri, secondo il sindaco c'era dietro un racket, poi la procura indagò e non trovò nulla, gli accattoni con campagne naziste del resto del Carlino, i writers, non ne parliamo, sono il male assoluto. Però nell'immaginario delle persone forse l'odio per la diversità e per la povertà in particolare, attraverso sempre questo darwinismo sociale, ha fatto breccia. Quindi volevo chiedere una riflessione su questo. Provo a sintetizzare alcune cose emerse. Comincio dall'intervento di Maurizio, assolutamente d'accordo, perché la questione della mendicità e della repressione della mendicità è veramente perversa, perché il Daspo Urbano introdotto dai decreti Minniti Orlando in realtà reintroduce dalla finestra qualcosa che è stato teoricamente espulso dalla porta nell'88, quando una legge modifica il foglio di via. L'ultima volta il foglio di via era contenuto all'epoca in un testo del 56, adesso invece nel codice antimafia del 2011, questa cosa è bene ricordarla, i provvedimenti sono finiti dentro un codice antimafia, salvo poi usare quei provvedimenti contro persone che magari la mafia era combatta, siamo al discorso no tab, uno degli argomenti è anche combattere le imprese mafiose, ma comunque al di là di questi paradossi. Nell'88 viene modificato il foglio di via e quindi spariscono, adesso cito testualmente, i riferimenti, fino all'88, in vigore il foglio di via del 56, si poteva utilizzare questo strumento contro persone che mettevano comportamenti contrari alla morale pubblica, agli oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro. Bene, queste categorie qua, indirettamente, implicitamente, col Daspo Urbano in parte ritornano. Quindi se dall'88 in poi si dice non si può più applicare un provvedimento di allontanamento nei confronti di persone che hanno l'unico torto di essere appunto senza fissa dimora o qualcosa di simile, con il Daspo Urbano si reintroduce. Quindi l'allontanamento assolutamente sì, è una misura diversa dalla repressione, ma è una forma di controllo sociale. Qui veniamo alle ambiguità del controllo sociale che sono insite nello Stato sociale, perché chiaramente va benissimo rimpiangere l'epoca d'oro del welfare state, ma non dobbiamo dimenticarci che quella roba lì è frutto di un compromesso capitale-lavoro, è uno strumento di pacificazione sociale e intrinsecamente controllo. e torna a qualcosa di detto ieri, quali sono le professioni delle zone grigie? Gli assistenti sociali e gli educatori, perché il sapere professionale degli assistenti sociali, del servizio sociale, non è che sia su certe cose diversissimo da quello di polizia. Quindi chi insegna servizio sociale, prende in mano gli studenti del primo anno, si rende conto quanto alle volte far capire loro che non siano birri è proprio l'ABC del compito, perché c'è una confusione molto forte, o una visione romanticizzata, spesso di orientamento cattolico, penso c'è pure con Giovanni, della prospettiva con cui erano questi studenti, aiutiamo i poveri, i poverelli, basta che non esagerino però con le richieste, con gli atteggiamenti. Quindi questo è un argomento centrale, quindi è proprio, stiamo dentro una continuità storica. Assistenza e controllo sono due facce della stessa medaglia, o meglio, è impensabile l'assistenza senza una quota di controllo sociale. Non illudiamoci che esista un welfare state come forma di intervento pubblico che non sia un esercizio di un certo tipo di controllo sociale. Questo in questo senso, quindi è interessante ragionare su questo punto. La parola accoglienza a me produce un'allergia molto forte, mi chiedevo perché, che in effetti, poi vado a vedere, la mia ignoranza, non l'ho mai fatto, apro il dizionario Treccani, il dizionario, e effettivamente tra i vari significati c'è anche quello di raccogliere insieme in uno spazio. Quindi l'accoglienza dei rifugiati nei luoghi periferici delle città è letteralmente accoglienza, cioè confinamento. Punto. Stessa cosa, come dice Maurizio, per i senza bisogno vengono portati in margine alla città. Quindi marginalità, che è proprio una questione fisica, spaziale, si mette ai margini, si rende poco visibile. Qui l'altra questione è quella della visibilità, dell'invisibilità di certi fenomeni. Quindi è assolutamente interessante. Le zone grigie sono anche queste. Sugli spazi, mentre Venezia, città in cui negli ultimi mesi vivo qualche giorno alla settimana, la pista turistica principale non si vede una faccia di persona che chiede soldi o... Invece la zona universitaria, ad esempio il tragitto che faccio io, anche in realtà quello un pochino una zona di passaggio, ma dalla stazione a Campo Santa Margherita o i dintorni di Campo Santa Margherita, lì si può fare, quindi lì alcune forme di comportamento sono accettabili. Quindi in questo senso sì, c'è una selettività anche degli spazi che si combina con quella nei confronti delle categorie. Assolutamente d'accordo sul ritorno allo stato etico, tra l'altro il sapere di polizia e il sapere del servizio sociale che si intrecciano conoscono proprio una storia interessante, drammatica di categorizzazione nei confronti di persone dedite al bere o di controllo sugli spazi come le osterie, che nascondono chiaramente altri obiettivi. Però qui c'è una idea di disciplinamento, di modi d'essere che sono anche sganciati da comportamenti che abbiano una valenza di pericolosità anche dalla stessa prospettiva delle stesse autorità di polizia dello Stato di diritto. Quindi si va a punire più che comportamenti pericolosi, sempre pericolosi tra virgolette nell'ottica di chi definisce la pericolosità, ma si va a colpire categorie, persone che acquisiscono uno status dalla prospettiva di chi usa questi provvedimenti. Quindi sì, le cose degli educatori in strada è inquietante, ma se pensiamo anche all'educazione finanziaria nei confronti delle persone che si bevono i soldi alle macchinette, si va nella stessa direzione. Cioè, da quale prospettiva lo Stato si permette di dire dobbiamo fare educazione finanziaria nei confronti delle persone che sono prese in carico, un po' lo stesso Stato che si finanzia con le slot machine o cose del genere, o paga le lotterie. Quindi quella è un'altra contraddizione piuttosto interessante, ma richiama il discorso sulle zone grigie, le categorie. Quali categorie sono pericolose dal punto di vista della repressione, anche categorie apparentemente non sospette. Boom. Grazie intanto. Sì, no, rispondo, forse aggiungo altri elementi. Uno è... A me interessa molto, non so se appunto non tutti conoscono Lepore, è un super assessore in questo momento a Bologna che sta costruendo in qualche modo la sua carriera anche al di fuori, in qualche modo, del partito, a fronte di un uso spregiudicato di appunto questo strumento che è la partecipazione, no? Quindi con queste retoriche partecipative. Ecco, secondo me sarebbe interessante confrontarci con quell'interlocutore là, perché anch'io lo vedo come un, come dire, un predestinato in questo momento. Il punto però, appunto, non so se ce lo possiamo permettere, è che mi pare che però non abbiamo un'alternativa a quel modello partecipativo di cui vediamo la retorica e la vuotezza, insomma, e quindi forse anche questa cosa dovremo un po' domandarcela, insomma, no? Sappiamo decostruire quel modello, ma effettivamente mi pare che non abbiamo un modello alternativo in questo momento. Due, sono culturalista, forse, però riguardo a quella chiave di lettura generazionale che proponevi tu in termini di conflittualità appunto spaziale, insomma, abitiamo, se penso a Bologna, non so a Torino, però è una città, mi pare, almeno quello che dicono le statistiche sul reddito pro capite negli ultimi anni, sempre più disuguale, cioè e la chiave di lettura generazionale è quella più significativa, cioè c'è un dislivello in termini di reddito fra chi ha meno di 30 anni e chi ne ha più di 50-55, mi pare che è andato aumentando negli ultimi anni in modo estremamente significativo, insomma, forse dovremmo partire anche da là. L'altra questione che diceva Maurizio, cioè questo, no, l'attore sociale senza fissa dimora, come da una parte bisognoso e riconosciuto come tale e dall'altra parte come potenzialmente criminoso, comunque pericoloso, senza esagerare con le parole, ecco, a me fa pensare però a quello che diciamo un po' prima, cioè che riguarda appunto l'intervento che facevi tu poc'anzi. Mi pare che per esempio in un territorio, no, come diciamo prima, di Piazza Verde, penso anche in altri territori, c'erano, almeno non saprei dimostrarlo, però un po' mi sono fatto questa idea, appunto, no, prima c'era la mensa, prima c'era ancora un centro sociale dove adesso c'è, no, quello spazio che dicevi tu. Cioè, c'era come un patto implicito tra amministrazione, università, residenti, che magari non coinvolgeva direttamente gli studenti e gli studenti fuori sede, però in qualche modo le conseguenze arrivavano fino a loro, per cui si potevano fare diverse cose, e forse anche di più che in altre città, e questo spingeva molte persone ad arrivarci, per esempio a Bologna, a fronte del fatto che però quel soggetto, per esempio studentesco, produceva cultura. Cioè, in qualche modo, cioè, c'era un circolo virtuoso che probabilmente ha funzionato per un po' di anni e che a un certo punto si è interrotto. A me viene a domandare perché a un certo punto quel patto non funziona più e si interrompe, no? Anche perché mi pare che era anche economicamente virtuoso, insomma, per la città, no? Quindi io partirei anche da lì. E dicevo senza fissa dimora perché ho di questo cambiamento, per esempio, me ne sono reso conto, Maurizio, quando c'è stato, non so se vi ricordate, quell'episodio dei tornelli a Bologna, di quella, no, tornelli di svelti, in quella che insomma, poco interessante il dibattito fra, no, chi avesse ragione sulla biblioteca aperta, chiusa, insomma, non voglio ripercorrere quel dibattito. Quello che proprio a me ha colpito è il modo con cui i giornali e lo stesso Consiglio Comunale ha parlato della situazione dei bagni dell'Università di Bologna, quindi qui vengono senza fissa dimora, usano i bagni, entrano dentro l'università, cosa che forse è sempre successa a Bologna, proprio per quello che diciamo prima, cioè Piazza Verde era, come dire, un momento di passaggio per moltissime persone che raggiungevano il centro storico, proprio perché, come dicevate prima, non si può scollettare, come diciamo Rizzo, in periferia estrema, o, no? Evidente che queste persone, quelle che richiedono aiuto, vengono verso queste zone del centro storico. Sì, no, anche l'ultima cosa, forse mi avete fatto voi ricredere su una cosa, quando parlavo con gli ultras del Bologna, tendevo sempre un po', forse anche qui un po' snobisticamente, a dire, no, quando dicevano ma noi siamo stati un laboratorio di politiche repressive, diciamo, dai, che cazzo stai dicendo, sai, preferivo andare da un'altra parte e non ascoltare quelle che credo masturbazioni mentali di persone ultra ideologizzate. Ecco, alla luce di anche quello che sto dicendo su trasformare altre cose, forse non mi viene in mente qualcosa, qualcuno di loro aveva anche ragione, insomma, effettivamente Bologna ha studiato molto quella realtà con Roversi, no, altri sociologi, se penso ad Allago fine anni 90, poi tutti quegli studi sono stati interrotti e c'era tutto un esercito di persone in curva che diceva guarda che siamo un laboratorio di politica repressive non da poco, studiateci, forse un occhio ci andava, no? Andava messo in quella direzione, perché alcune cose ritornano poi nelle piazze e sono partite anche fuori da quegli spazi. C'era, credo, un ultimo intervento. Ah, no, un'altra cosa che mi verrebbe da dire è Io ancora non ho ben capito cosa sia e cosa non sia gentrificazione, cioè cosa va messo dentro, eccolo, dentro quel contenitore, cosa, e cosa possiamo togliere, appunto, e lo sapremo. E, ecco, a Bologna sono tanti territori dove però questi tentativi come Piazza Verdi si fanno, penso a quello dove abito io, Bolognina, e non funzionano. Ecco, forse una domanda anche interessante sarebbe capire anche perché poi invece ci sono delle resistenze che ancora una volta leggiamo come naturali, non avvengono, ma in verità ci saranno sicuramente dei motivi per cui in alcuni territori effettivamente quello che succede nel centro storico bolognese non avviene, nonostante l'amministrazione vorrebbe che avvenisse. Insomma, che succede in quei territori là? Perché queste cose non riescono come in Bolognina ad accadere? Una cosa velocissima riguardo al dibattito comunque che si è fatto finora, nel senso che anche rispetto all'ultimo intervento che si faceva su, diciamo, la questione di quanto vuol dire l'etica all'interno, lo stato etico all'interno di questo discorso, no? Qualche anno fa, quando ci furono tutti diciamo gli scontri o quantomeno la battaglia sul discorso della mensa, a un nostro compagno il cuore aveva dato un divieto di dimora molto particolare, ovvero il fatto che non era un divieto di dimora a Bologna, aveva un divieto di dimora, l'impossibilità di stare all'interno del centro storico. Cioè lui poteva stare fuori dalle mura, ma non poteva entrare nel centro storico. Questa che sembra una roba di stampo quasi medievale, quasi come costruire una dinamica di ponti alla quale tu non puoi accedere al centro città, era una cosa molto interessante per quanto ci riguarda, perché comunque tutto questo discorso rendeva un po' bene anche il tipo di trasformazione che si stava dando sulla città. Per esempio, nello stesso momento venivano fatte delle ordinanze, o quantomeno delle, diciamo, prese di posizione da parte dell'università, per la quale per esempio c'era tolleranza zero sul discorso dei murales, ovvero non è possibile fare in più murales all'interno della zona universitaria, perché automaticamente c'è questo nucleo che immediatamente arriva a cancellare il murales, è quello che sta succedendo anche adesso in università. Quindi fondamentalmente tutti questi due tasselli, un certo tipo di diciamo intendere le misure, le ordinanze, la questione dei murales, o per esempio quello che è, diciamo, anche tutto quello che c'era alla base di quello che è successo in Piazza Verdi nel 2013, no? Perché alla base di quella roba lì ci fu il divieto di usare amplificazioni all'interno di una piazza, ma amplificazioni si teneva anche, non so, 10 persone con un microfono per fare un'assemblea pubblica, cosa che in Piazza Verdi è sempre stata fatta, di fatto quello diventava anche un problema di ordine pubblico e di sito in quanto tale. Quindi il discorso, secondo me, secondo noi, su questo discorso qua, è anche il fatto che proprio la modalità, no? Che si parlava prima dei container, di come viene utilizzato lo spazio urbano, appropriato lo spazio urbano in zona universitaria, per esempio, è che si vuole costruire, tra virgolette, una modalità di azione che sia sempre e costantemente produttrice di nuove forme di degrado, tra virgolette. Cioè non si vuole mai intervenire veramente per provare a risolvere una situazione, ma si vuole soltanto ricreare delle condizioni affinché questa roba funziona. Per esempio, sulla città, pensiamo alla Montagnola, in questo momento cosa succede in Montagnola, la gestione della Montagnola, ovvero di fatto operazioni da teatro di guerra con poliziotti a tutte le entrate, ma i migranti che vengono accudati di spaccio della Montagnola, poi dove vanno a finire su Piazza Verdi. Piazza Verdi è diventato di fatto un buco nero nel quale tutta la marginalità sociale deve di fatto andare a diciamo, costituirsi come unico grande problema, sul quale poi si va a creare un discorso di intervento che dice ok, noi torniamo a zero in Piazza Verde, fa un raid qua e là, ma poi di fatto non è che si va mai a tentare anche da parte di Susie di affrontare questo problema. Perché? Perché fa comodo che ci sia una zona di quel tipo, cioè permette di costruire tutta una dinamica di degrado, tutta una dinamica, diciamo, di costruzione di problema di ordine pubblico che poi permette di andare a colpire, appunto, quando poi in quella situazione di marginalità, di problematica, eccetera, si prova ad alzare la testa. La questione della mensa era un caso preciso di questa cosa. In zona universitaria, di fatto, l'unica cosa che c'è, oltre alla presenza, appunto, di spaccio piuttosto che altro, è l'attività politica di collettivi universitari che cercano di situarsi all'interno di quella che è una zona ancora molto attraversata e provare a fondamentalmente anche spingere da qualche altra direzione. Costruendo, continuando a costruire quel dispositivo, quello stigma del degrado in zona universitaria, non si vuole veramente poi colpire la base di quel problema lì, ma si vuole poi andare ad attaccare ogni cosa che possa emergere in contraddizione con quello, no? Che tutto quello che si è fatto negli anni scorsi dopo la questione di Piazza Verdi, la questione dei tornelli, non è un caso che sia stata descritta anche in quel modo, perché doveva rimanere una questione per la quale, appunto, tossici, sbandati e collettivi facevano del 36 uno spazio franco, e quindi quella roba lì va normata e modificata. Però poi le ragioni reali, diciamo, del perché si crea anche una situazione di marginalità non vengono mai affrontate. Cioè, com'è possibile pensare anche rispetto alla movida, la questione dei cicchettari, la questione di un certo tipo di consumo di alcol, che è una città dove da anni viene sgomberata qualunque tipo di esperienza autogestita fuori dallo schema, poi non ci sia gente che sta in strada e comunque rivendica anche il diritto un minimo alla sua socialità. Nel momento in cui si devasta qualunque tipo di forma alternativa, poi è chiaro che si costruisce anche una dinamica diciamo preoccupante. Sembra quasi di stare in The Wire, non so se qualcuno ha visto The Wire, quando appunto si fanno gli arresti sommari per un po' di tempo, si crea una dimensione di discorso della quale la polizia c'è, lo Stato c'è, ma poi di fatto il problema non viene mai risolto. E quando invece si prova a costruire qualche cosa dal basso, come appunto riprese di piazza, iniziative e quant'altro, arriva immediatamente poi un attacco politico. Quindi probabilmente la questione sul quale anche interrogarsi è capire se anche questa questione del degrado, decoro e quant'altro da parte delle istituzioni non venga mai veramente affrontata con l'ottica di sperimentare delle situazioni, ma quanto invece non ci sia un continuo tentativo di ricreare nuove forme di ghettizzazione, nuove forme di stigma su quale poi andare ad attaccare tutto ciò che non è direttamente compatibile con una gestione, diciamo, poi turistica della città, che è quella che poi magari discuteremo anche questo pomeriggio. Provo a dare un elemento su questo, però premetto che magari ricordo male, quindi potrei dire una cosa inesatta. In un testo di Nick Dines, un antropologo che è inglese ma che ha lavorato moltissimo su Napoli, se non ricordo male ricostruisce la storia dell'uso del termine degrado da parte del PC napoletano per delegittimare il sottoproletariato. Minniti, secondo me, la logica attuale, poi dicevo con Minniti, i suoi nemici sono i movimenti e quell'area, no, sottoproletariato, area alla sua sinistra, che non ritiene governabile attraverso il quadro politico-istituzionale in cui si colloca. Quindi non è soltanto chi è attivo, anche chi è impolitico da un certo punto di vista è potenzialmente politicizzabile. Quindi in questo senso richiedenti asilo possono essere messi nello stesso calderone di soggetti che ritiene pericolosi per motivi diversi, ma che hanno un indice simile di pericolosità. Quindi in questo senso anche qui c'è un recupero, mi sembra, dell'uso della categoria del degrado, del decoro, come arma contro forme di sottoproletariato, di marginalità o di collocazione comunque proprio ai margini della scala sociale, non soltanto spaziale, ma anche in termini di status, di capacità di incidere, di partecipare attivamente alla vita pubblica. Quindi questo, c'è una grossa continuità nel cambiamento, che è appunto la sua filosofia specifica, ma mi sembra un aspetto interessante, e questo la dice anche lunga sul rapporto storico tra la sinistra istituzionale e la sinistra non istituzionale. Il rapporto PC-sinistra antagonista negli anni 70 ha avuto una certa dinamica che in parte mi sembra che ritroviamo adesso nel rapporto tra il centro-sinistra adesso di governo e tutto ciò che viene percepito come al di là e che viene screditato, appunto depoliticizzato. Un altro aspetto interessante è qui la continuità con altri saperi, dove l'inaccettabilità e la delegittimazione degli attori passa attraverso la negazione della loro politicità. Il sapere di polizia su questo è maestro: per negare uno stato di legittimità a gruppi sociali si nega il fatto che siano politici. In questo senso quindi la natura politica o la capacità di gestire politicamente le cose in un certo modo diventa lo spartiacque, la demarcazione tra l'essere accettabili, l'essere interlocutori legittimi in un'arena politica e non esserlo. Quindi anche su questo penso che ci siano dei ragionamenti interessanti da fare anche in termini di contrapposizione rispetto a questo tipo di argomenti, quindi rigestire il discorso del decoro riportandolo contro, ad esempio. Sì, trovo anche delle analogie, nel senso, per esempio Torino, ho parlato appunto prima con lui, Palazzo Nuovo poteva essere considerato, diciamo, quello spazio libero dove anche, per dire, dove c'era di tutto, nel senso, sì, era un'istituzione accademica, però dentro, per dire, nel senso, era aperto a tutti, potevi trovare tutti, per qualsiasi attività, evento, insomma era un po', come dire, il punto di ritrovo. Poi ovviamente adesso Torino la situazione è cambiata, nel senso è stato aperto appunto il campus Einaudi, che ha un po', come dire, tolto di importanza Palazzo Nuovo, che pur resta comunque la sede delle facoltà di scienze di di lettere, insomma, però anche diciamo è diventato un po' più il campus Einaudi a fare da punto di ritrovo, però con, essendo una struttura nuova ovviamente è, come dire, è molto più difficile riuscire ad avere degli spazi. Ovviamente abbiamo l'auletta autogestita e tutto, ma è molto molto diverso. Questo secondo me rientra anche nelle logiche. E spazio nuovo d'università, ovviamente si cerca di non dare spazio a chi, come dire, cerca in maniera controcorrente di rivendicare le proprie, appunto, rivendicazioni. E niente, questo è un po' il quadro di Torino, come molto simile a Bologna. E appunto, come dicevo prima, questa nuova, e qua volevo chiedere anche voi, nel senso, perché prima parlando con alcuni compagni e compagne si vede, diceva che sta diventando molto meno studentesca, nel senso, come città Bologna, mentre Torino sta vivendo da un certo punto di vista quello che Bologna ha vissuto magari con l'era Confferati. Come dicevo prima, Torino a livello artistico ha significato molto, ci sono andati molti gruppi musicali e tutto, aveva, diciamo, un fuoco espressivo notevole. Adesso ovviamente anche il fatto della circolare Gabrielli, che è molto difficile organizzare eventi, molti eventi vanno via da Torino, eccetera eccetera. Penso che rimaniamo, che sono noi con l'autogestione, con l'auto-organizzazione, a cercare di porre rimedio a questa situazione qua. Non è un caso il fatto che comunque, io prima citavo come luogo i Murazzi. Per me i Murazzi a Torino, come giovane, per chi li ha attraversati, sono stata una grande espressione artistica. Trovi veramente di tutto, nel senso, c'era la discoteca, per dire, quella un po' più da fighetto, c'era Giancarlo che, come dire, che dalle due in poi era appunto il locale delle due in poi. Trovi dall'altro lato dei Murazzi il Dottor Sax, che per esempio apriva alle 4 del mattino. Insomma, questa qua comunque era un'espressione particolare, e io in quel mondo lì, nel senso, ho visto molte cose, praticamente la Torino culturale è nata proprio sulle sponde del fiume Po. Adesso, come dire, vedere un luogo così, che è nulla ad invidiare per esempio le Ramblas di Barcellona, vuoto, penso che sia una sconfitta della città e delle amministrazioni. Poi vabbè, dietro c'è tutta una querelle di, vabbè, ovviamente con tutti anche amministratori coinvolti, eccetera, eccetera. Non voglio entrare tanto nella situazione, però vedo come anche questo sia frutto di questi decreti che mirano proprio ad appiattire, come dire, i luoghi di ritrovo, e penso che le ordinanze di quest'estate, che adesso ovviamente sono state tolte, ma penso che da marzo in poi, quando di nuovo la situazione esploderà, riaccadranno certe situazioni, anche perché da un lato, diciamo, c'è una spinta molto, purtroppo, legata alla questione sicurezza, che porterà ancora molti molti più controlli, e lì poi si giocherà, secondo me, una partita molto molto importante nella nostra città. Allora, sì, in realtà chiuderei qui, non prima di dire un paio di cose. La prima, che in realtà pensavo sarebbe venuto fuori come argomento, l'apparente neutralità di queste ordinanze, che sembrano appunto regolamenti grigi, nel senso, non senza privi di colore, invece hanno evidentemente una parte politica. E nel pomeriggio proviamo ad andare a capire di che colore sono marcate queste ordinanze, anche perché nel pomeriggio parleremo di quello di quanto si accennava prima, del fatto che se per esempio una città come Bologna fino anche solo 10 anni fa era conosciuta come la grande città universitari invece si sta cambiando veste, diventando sempre più la città del food, non del cibo ma di qualcosa di più complesso, e città turistica. Noi adesso ci diamo una pausa di un'oretta circa, non siamo riusciti a preparare il pranzo, quindi da questo punto di vista c'è l'autogestione. L'unica cosa, questa tre giorni è completamente auto-organizzata e per di più senza una vera e propria struttura dietro, per questo motivo siamo anche autofinanziati. Chi avesse un obolo, chi avesse la possibilità di darlo, lì c'è un barattolo in cui lasciare un piccolo contributo. Ci vediamo fra un'ora. No, stavo dicendo di dare un orario, ma inizieremo alle 3. Bella, salve.